Veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Come può uno non ascoltare la zanzara? Cioè, è impossibile, è assurdo, è folle, è drammatico. Viva la zanzara, sempre la zanzara. Allora, sono in diretta radio, sto facendo regia e mentre la speaker spara puttanate, io ascolto il podcast della zanzara. Siamo veramente al top. Allora ragazzi, io non voglio ogni volta rompervi le palle su sta storia degli omosessuali, dei gay, dei froci, chiamateli come volete, il Family Day, la legge Cirinna, le diversamente sessuali, sì, le formazioni sociali, non so come vogliono chiamarle, perché io capisco quelli che mi scrivono basta parlare di gay, basta parlare di froci, basta parlare di omosessuali, ci sono problemi più seri, certamente è così, e io capisco anche... Dobbiamo dire, noi per una vita abbiamo parlato di queste cose. Adesso anche a me è venuto un po' noia, però l'attualità è questa, e che dobbiamo fare? Dobbiamo evitarla, dobbiamo scansarla, dobbiamo far finta per esempio che un signore che è il direttore dei programmi di una radio molto molto importante come Radio Maria, una radio molto ascoltata da chi ci crede, da chi crede in Gesù Cristo, in Maria, eccetera eccetera, certo. Dobbiamo far finta di non aver sentito certe cose. Oggi no, abbiamo raggiunto. Dobbiamo dire no. Esatto. Oggi abbiamo raggiunto un punto di non ritorno, caro Parenzo, amici della zanzara, popolo della radio, chiunque sia in collegamento in questo momento. Secondo me ci vuole un intervento. Sì. Tieni presente che il signore di cui sta parlando, cioè il direttore di Radio Maria, è il Cruciani di Maria. No, di Radio Maria. Lui. Io apprezzo, io apprezzo la libertà di pensiero. Ovviamente apprezzo anche una persona audace che combatte come fa Don Livio per le sue idee. Le mie sono diametralmente opposte a quelle di Don Livio Fanzaga su questo argomento, cioè l'argomento del sesso, l'argomento dell'amore, tutti, l'argomento del matrimonio, l'argomento degli omosessuali, eccetera eccetera, del diavolo e quello che volete, però io non ho mai augurato la morte a nessuno, cioè non ho mai detto in diretta che mi auguro la morte, che ne so, di Parenzo. Cioè non ho mai, no, ma per dire, no. Ci mancherebbe altro. No, ho capito. Uno al massimo può... al massimo di Mauro da Mantova, al massimo di Donato da Varese. Tu ti auguri la morte di Mauro da Mantova? Non subito. No, più dai. Tardi possibile. Ma però, quel giorno voglio esserci. No, quel dai. Giorno, amico mio, voglio esserci, voglio raccontarlo in diretta, in esclusiva, voglio raccontare momento per momento. Non puoi augurarti la morte di Mauro da Mantova. Non ho detto non adesso. Ho capito, ma ti stai Sai perché? Stai sorridendo, dai. Stai sorridendo. No, ho detto cioè, no. La morte di Mauro da Mantova non sarebbe un dramma, dici tu. Non sarebbe detto, una perdita per l'umanità. No, ho detto non adesso. Ogni cosa a suo tempo. Avverrà anche per lui, come avverrà anche per me. Siamo uomini, non sì, eterni. Però adesso... Qualcuno vive troppo. Però. No, dai. No, ho detto qualcuno. I nazisti, ad esempio, hanno vissuto sin troppo. Vabbè, ma non puoi paragonare quella a un nazista. Ho detto... Dai. No, ma io non lo auguro a nessuno, veramente. Però... Dico semplicemente che quando uno arriva a 99,9 anni, cosa che auguriamo anche a Mauro da Mantova, se per caso a 99,9 anni dovessi, Dio non voglia, avere un malore fulminante, non dolore che si perpetua per giorni e giorni, Beh, non starei lì a disperarmi di lacrime, a dire oddio, Mauro da Mantova, non c'è più. Vabbè, però qui non ci stiamo occupando di Mauro da Mantova. Adesso, tornando un attimo seri, caro Davide, non ci stiamo occupando di Mauro. Qui c'è il capo dei predicatori cattolici in Italia, una radio in cui ha lavorato anche il signor Mario Adinolfi, che era lì sul palco, uno degli organizzatori del Family Day, un signore, adesso qui mi incazzo senza scherzare, che si chiama Don Livio Fanzaga, che io ammiro anche per la sua combattività, ammiro anche per la sua, per il suo essere, come si dice, pugnace, no? Sì, bella, sì. Parola pugnace, bello il latinismo, pugnace, latinismo. Ogni tanto mi vengono fuori delle cose di quando studiavo, dal di quando latino, ero serio, pugnace, pugne, molto bellissimo, bello, molto stupendo. Allora, non so le pugnette come, allora, tu non sai quello che ha detto, pugne. Perché ovviamente oggi sei stato in viaggio e lasciamo perdere questo argomento, sì, no, che ha provocato, no, traumi vari. Ma parleremo a lungo. Parleremo di quello che ha l'Italia, allora, fatto oggi. C'era la grandine. Parleremo perché non sono bastati gli arabi a comprare quella all'Italia. Parleremo delle due ore di sequestro di persona che mi hanno fatto. Parleremo a lungo. Scusate. Allora, Don Livio Fanzaga, andando al punto, perché abbiamo perso 6 minuti per, sì, le tue cazzate. Pazzesco. Da Mauro da Mantova ad Alitalia ci hai fatto perdere 6 minuti. 6 minuti. 6 alla radio. Allora, cosa ha detto sto Santuomo? No, Santuomo no, perché diciamo la verità, è un coglione. Quando dice queste cose è un coglione, il signor Don Livio Fanzaga. Sentiamo, perché ha augurato la morte alla Cirinà. Ora, a no, me della Cirinà non me ne la frega morte, niente. Proprio. A me non me ne frega niente. Non sono amico, non sono fratello. Non mi interessa. La particolarmente morte, è una che sta facendo una battaglia per le unioni gay, per me pure troppo moderata, ma non mi interessa questo punto. Si è augurato la morte. È stato interessante ascoltare l'intervento introduttivo di Monica Cirinna. Lei questa qui mi sembra un po' la donna del capitolo 17 dell'Apocalisse, no? La Babilonia, insomma, che adesso brinda prosecco alla vittoria. Signora, arriverà anche il funerale, stia tranquilla. Glielo auguro il più lontano possibile, ma arriverà anche quello. Amico mio, no. Amico mio Fanzaga, hai cercato di rimediare poi, come Parenzo prima, hai cercato di rimediare. Ma non sei uno qualunque, amico mio, sei il... È come se io dicessi voglio la morte, non so di chi, voglio la morte di... non Vabbè. So, un mio nemico, poiché è un mio nemico assoluto, tutti. Diciamo. Tutti, sì, effettivamente. Voglio la morte, no, tutti no. No, ma insomma, voglio la morte, non so, di qualcuno che mi vuole... Di dei qualcuno... vegani. Sì, esatto, ecco. Sì, voglio la morte. No, no, non me la auguro la morte di nessuno. Sta Cirinà, per carità, non sei d'accordo con lei, però augurare il funerale alla Cirinà, ma è una cosa gravissima. Io, guarda, oggi mi viene in mente di fare una cosa, non so se avrò il coraggio di farla, dai. Proseguiamo con Fanzaga, perché ovviamente non è che si è limitato a dire questo. Privano i bambini del diritto civile di avere una mamma e un papà, cioè li impongono due papà di fatto, perché le lesbiche non è che siano poi così tante. Lo sai che ha detto? Scusa, le adozioni gay ce le impongono i papà gay, perché di lesbiche non ce ne sono tante. Ma questo non è gente che non conosce il mondo. Cioè, gente che non conosce il mondo, di lesbiche non ce ne sono. Ma che ne sai tu, Fanzaga? Io vedo... Cioè, no, ti assicuro che io ti porterei davanti a due che se la leccano. Cioè, che scusi? No, lo porterei davanti e dico, guarda. No, ma non ho capito. Esistono anche lesbiche. Ah, esistono. Ah, lo porterei davanti. Se vuoi ti ci porto, caro Don Livio. Vedrai che ce ne sono tantissime. Ma io lo dico perché è gente che non conosce il mondo, capito? Non conosce la vita, quello che accade. Poi se la piglia pure con la Pascale. La signora Pascale, la compagna di Berlusconi. Ex compagna, forse. No, che ex compagna. Perché non lo so. Sono operata da Francesca Pascale, fidanzata di Silvio Berlusconi e esponente della lobby della Cigai, al lavoro per far tradire il mandato ricevuto dagli elettori da parte di senatori da sempre contrari al matrimonio gay, capito? Questa qua, anche questa qua, sono le donne in prima fila che vogliono il matrimonio gay, si vede che si sono stufate degli uomini, non so io cosa vogliono, ma rifilano gli uomini agli uomini, brave. Vabbè, comunque pazzesco. C'è altro su Don Livio Fanzaga, continua la polemica. Ma il Papa sa cosa avviene in quella radio o no? Cioè, il mondo Vaticano sa che cosa succede in quella radio? Ragazzi, o no? Il Papa ha altri cazzi da pensare, non è che si interessa di Radio Maria e di Don Livio Fanzaga, però qualcuno dovrebbe intervenire quando uno augura la morte a un deputato, a chiunque, eccetera, dall'alto della sua, no, dall'alto della sua, del suo trono religioso, dall'alto della sua, no, non è un prete, cioè, perché è un prete, uno dovrebbe essere caritatevole in teoria, no? Invece questo qua augura la morte alla Cirinale, aperto, ecumenico. Dai, su. Incline al perdono. Il tuo amico Bidon ci ha preso il porto d'armi per le minacce ricevute. Sì, ho visto, quello è il porto d'armi. No, ma quello sarebbe nulla. Il fatto è che ha fatto poi un'intervista rivendicando il fatto che non può prendere il porto d'armi, ma ha fatto benissimo. Ma è un segnale pessimo che dai. Perché è un segnale, terribile, ma per me pessimo, favorevolissimo. Segnale pessimo che dai alla cittadinanza, come se ci fosse bisogno a Padova di girare armati. Sai che io penso davvero che sia uno dei migliori sindaci in Italia, signor Bitonci? Lo sai che per me è uno dei migliori sindaci che c'è in Italia. D'altra parte alcuni sondaggi lo incoronano. Ha fatto benissimo a prendere il porto d'armi, ma sì, dando l'esempio a chi è. Ma è come dire che lo Stato non è in grado di proteggere Padova. Un esempio sulla sua stessa città, dicendo: nella mia città bisogna girare Bitonci. È incredibile. Io l'ho fatto per difesa personale, perché ho avuto minacce di morte anche l'anno scorso. Ho ricevuto una pallottola con minacce, ma non è neppure la prima volta. Chi fa il sindaco e chi lo fa poi come me, che cerco di dire sempre quello che penso, queste cose capitano. Vabbè ragazzi, abbiamo... Che c'è il traffico? Come al solito? Mamma mia, il traffico, ragazzi, non ne posso più. Non ne posso più il traffico. Il traffico, capito? Il traffico. Allora, la prima cosa che io farei per la città è il traffico, cercare di regolare il traffico, sicuramente meglio di come adesso, la viabilità. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta La Zanzara. Te fa la vita me amara, me sto ascoltando La Zanzara. Questa non era male, eh? Per far la vita meno amara. Ma te lo ricordi? Gente, però, per far la vita meno amara, chi era? No, chi era? Per far la vita meno, chi è? Lando Fiori. Lando Fiori. No, non lo sanno neanche in regia. Vabbè, ragazzi, Per staccarci un po' da questa storia assurda delle unioni gay, di quello che ha detto Fanzaga, che è una vergogna assoluta. Perché del capo dei pediatri vogliamo parlare. Parleremo dopo. Il numero uno dei pediatri. Però il numero uno dei pediatri. Il numero che uno, dice, nel senso che è il cosiddetto capo dell'associazione che riunisce. Sì, che ha detto che un bambino all'interno di una coppia omosessuale crescerebbe in maniera un po' malata. Però questa è un'opinione che ci può anche stare. Io la critico, ma ci può anche stare. Francamente è più pesante questa, perché un uomo di scienza rispetto a quella di un uomo di chiesa. Quello che si augura la morte. Quello che si augura la morte è gravissimo. Ma dovrebbero chiudere, dovrebbero cacciarlo subito, pedata nel culo. Beh, sì, augura la morte. Ho capito, ragazzi, ma augura la morte. La morte. No, ma non c'è dubbio, è di una gravità inaudita. Se io adesso auguro la morte a qualcuno che non la pensa come me, domani giustamente mi caccia. No, ma quello è incredibile, perché è un prete, perché è direttore di una radio Maria. Però anche il capo dei pediatri, amico, uomo di scienza. Comunque vabbè, andiamo avanti. Allora, la questione di Affittopoli, no? Affittopoli a Roma. Si è scoperta, hanno scoperto l'acqua calda in realtà, che sono... Bisogna dire grazie, Tronca. No, aspetta. Ci è voluto un prefetto per scoprirlo intanto. Lascia perdere. Migliaia di case al centro di Roma, molte al centro di Roma, 10, 20, 40, 100, 200 euro, sarebbe uno scandalo anche 500 euro al centro di Roma. Però non è una cosa di adesso. Ci sono gli elenchi al Comune di Roma con tutti gli affitti scandalosi. Il problema, la maggior parte delle volte, non è di quelli che hanno affittato la casa o che l'hanno occupata e per anni nessuno ha pensato di aumentare i canoni, di fargli un contratto, eccetera. Il problema è del Comune, che se n'è sbattuto, perché non sono soldi di privati, ma sono soldi nostri, certo. E ha ricevuto un sacco di soldi Roma, come altre città, dallo Stato per il suo dissesto finanziario. Invece poteva guadagnare, giusto, affittando queste case e mettendole sul mercato. Questa è la vergogna assoluta, giusto, di Roma. Con i soldi nostri hanno fatto quello che volevano. Invece potevano mettere, no, tutte le case in affitto. Adesso stanno beccando le vecchine, no? Le vecchine che pagano 10 euro al mese, 20 euro al mese, in zone che adesso valgono 1000, 1200, 2000 di affitto. Ma non, la colpa non è di questi poveri disgraziati. Certo. Ho letto oggi sul giornale che c'è un signore che si chiama Massimo Ruga Gentili, che un inquilino di via del Colosseo 73 paga 190 euro, cioè nulla praticamente, per 50 metri quadrati. Questo signore fa il personal trainer, Massimo Ruga Gentili. Beh, amico mio, l'ho sentito pochi istanti fa. Pochi istanti fa, mentre tu eri in treno che venivi qua, pochi istanti fa. È abbastanza incazzato perché lui al Messaggero ha detto: il contratto non l'ho mai avuto, è verso il canone che decido io. Così avrebbe detto il Messaggero. Ma com'è un inquilino che decide il canone? 190 euro in via del Colosseo, per chi non lo sapesse è una zona centralissima. Vabbè, Colosseo, ragazzi, su. Pronto? Sì, sto parlando con Massimo? Sì, chi è? Ciao Massimo, qui Cruciani, Radio 24, ciao. Ciao, oh, Cruciani. Come stai, mortacci tua? Mortacci tua, no, ma guarda, adesso sto pensando di mettermi in contatto con un giornalista che ha fatto lo stronzo ieri, ha fatto uscire praticamente... Ah, il titolo del Messaggero, dici? Ma guarda, è stato davvero una pessima persona. Ma perché il canone lo decido io? Ma sì, ma gli ho detto pure che gli ho fatto vedere i bollettini. Gli ho detto che appena ero entrato a casa mandavo dei soldi al comune perché non sapevo quanto mandare. Poi quando mi sono arrivati i bollettini, 390 euro erano i bollettini del comune. Cioè, per cui il canone l'ha deciso il comune, non è che l'ha deciso tu? Assolutamente sì, ma gliel'ho anche detto. Io sono entrato nel 1984. Questa casa. Hai occupato questa casa. La cosa non è bella però. Vabbè, io ho capito, ma negli anni 80 sai come funzionavano le cose? L'ho occupata perché ho dormito 6 mesi in macchina dopo che ero stato trattato dall'abitazione dove ero prima. Hai occupato questa casa con chi? Con tua madre, con chi? Con mia mamma. Con tua madre. Vabbè, e da quel momento hai pagato o no? Quando è che hai iniziato a pagare? Appena sono entrato, noi abbiamo mandato subito dei soldi al comune con un bollettino che facevamo noi. Mi sembra che era sulle 50.000 lire. Noi volevamo in qualche modo contribuire, pagare, fino a che poi ci mettessero in regola. Comunque questa casa, ripetiamola un attimo, scusami, per chiarire meglio, Massimo, scusa. Allora, quanti metri quadrati sono? 49. 50 metri quadrati a via del Colosseo, cioè in pieno centro. Una casa del genere oggi a prezzo di mercato l'affitto sarà 1.000-1.500, quant'è? Forse un migliaio di euro da un privato, però. Ma questa mica è una casa popolare. Ma guarda, casa mia è una casa vecchia, ho ristrutturato io. Quindi che cosa vuoi che ti dica? È una casa del comune. Lascia perdere. Io voglio dire, Massimo, devi riconoscere che sei un privilegiato, amico mio. Riconosciamo questo. Non mettere così. A me se il comune mi chiede di più, sono dispostissimo anche a parlarne e a pagare anche di più ad essere regolarizzato. Quanto paghi adesso? Scusami, quanto paghi adesso? Adesso guarda, pago il 190 più le spese che sono di acqua e luce, quello, le spese delle scale. Quello che c'entra, acqua e luce tutti lo paghiamo a prescindere dall'ufficio. 190, sì, ma che è poco, diciamo la verità. Una media dei 200 euro. Però è molto poco, dai, è molto poco. Ci sono casi che hanno. Ma tu quanto guadagni? Quanto guadagni tu? Guarda, io faccio dei lavori sporadici. Ho visto nelle foto, sei muscolosissimo. Cerco di inventarmi questo lavoro, che è l'unica cosa che so fare, perché sono stato un ballettino, uno sportivo, mi sono sempre allenato. Fai il personal trainer, no? Cerco di fare il personal trainer, sì. Però se ti dico quanto guadagno, adesso come adesso... Che ne so, all'anno quanto guadagni? 10.000, 20.000, 30, quanto guadagni? Ma che 10.000, ma magari. 10.000 sono meno di 1.000 euro al mese, oh. 10.000 euro. Sì, è meno di 1.000 euro al mese, hai ragione. Però scusa, io leggo qua, allora, questo affitto è abbastanza irrisorio, cioè 190, chi lo ha stabilito? E tu rispondi, noi da soli non volevamo non pagare niente, come fanno altri che occupano. No, ma questa è una risposta che hanno scritto sbagliata. Apposta io sto cercando di mettermi in contatto con questo Lorenzo, come si chiama? Lorenzo Di Giacomo, come si chiama? De Cicco. Perché? Credo. Perché? Sì, perché si è portato male, perché ha scritto cose non vere. Ma qua non lo trovi, questo non fatto, lo trovo. No, lo vado a cercare, lo trovo per forza, perché a me per il culo non mi si prende. Nel senso, io... E che fai? O vai a cercare sotto il Messaggero? Che fai? Lo vado a cercare sotto il Messaggero, perché io metto nel radacodice, perché se non è possibile questo. Perché devo essere in giro e devo essere... come si dice, crocifisso per questa cosa che non ho detto. Ma chi la, perché uno deve inventare una cosa? Per anni hai pagato molto poco, anzi niente. A un certo punto hai deciso di regolarizzarti per vari motivi. Ti è arrivato sto bolletto. Stai a sbagliare. Perché? No, perché? Perché vuol dire ho deciso di regolarizzarmi? Allora, io te lo spiego un'altra volta. Dice, ho contattato la Romeo, c'è scritto, abbiamo contattato la Romeo. No, non l'ho contattata io, ma hanno contattato loro dicendomi che mi avrebbero fatto il contratto. E invece il contratto non l'hanno fatto? No, hanno preso la metratura quadrata della casa e subito dopo, successivamente, mi sono arrivati questi bollettini con scritto indennità d'occupazione. Però il contratto non è mai arrivato, quindi comunque hanno fatto tramite il comune. E questi bollettini erano di 190 euro? Sì, prima, certo, poi con l'aumento di vista, tutte queste cose qui che ogni anno vanno ad aumentare. Ma se a te, aumentano l'affitto, riesci a pagarlo o no? Beh, in qualche modo tento di pagarlo, Crucia, perché... E se ti mandano, se ti danno un'altra casa in periferia o se dovessi trasferire, per te sarebbe un dramma se ti dovessi trasferire? Beh, io lì ci sono nato, ovviamente, sono nati i miei figli, c'è morta mia madre, c'è un pezzo di storia, però io che ti devo dire? In quanti vivete là dentro? In quattro persone. In 50 metri quadrati, diciamo. Sì. E dunque, se ti dovessero sfrattare, fai un casino. E che faccio un casino? Cerco da come si dice? Cerco da tenermi un stretto di denti. Che devo fare, Lucia? Scusa, 50 metri quadrati, in quattro persone. Mi spieghi io che cosa sto rubando? Volete più di affitto? Ne parliamo, ve do più d'affitto, fatemi un contratto. Io non sto rubando niente a nessuno. No, ma non è che rubi, amico mio. No, qual è? I furti non sono questi, certamente, però rispetto ad altre persone che pagano per gli stessi metri quadri al centro di Roma 1000 euro, tu ne paghi 190, e questo è il punto. Le altre persone stanno dai privati. Vabbè, amico mio, grazie. Ciao. Ciao. Che dobbiamo dire? È un pesce piccolo, è evidente, però... Dobbiamo dire semplicemente una cosa, caro Cruciani e caro Parenzo, che ho sentito la parola occupazione, parola meravigliosa che mi ricorda gli anni 60 in cui noi prendavamo le case. Ma caro, ho capito, amico mio. Entravamo con le mazze nelle case, le occupavamo al grido di libertà, libertà, libertà, e scappavano come conigli, scappavano i proprietari come conigli. Ottima parola, occupazione. Ragazzi, c'è un problema. Mi manca Mauro da Mantova, ma in maniera proprio esagerata. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. La Zanzara. Allora ragazzi, io faccio risentire l'audio di Fanzaga perché qualcuno mi scrive non ci credo, non può avere detto quelle cose. Beh, io lo faccio risentire e confermo quello che ho detto prima. Ammiro la tenacia in alcuni casi, non le opinioni perché non le condivido, però la battaglia che fa per le sue idee, ed è tutto legittimo. Noi lo pigliamo in giro perché siamo la Zanzara e abbiamo un modo di fare che è quello che è. Lo prendiamo in giro. Ma noi siamo alla Zanzara, quello è un prete, è direttore di una roba che si chiama Radio Maria. Sto parlando del modo in cui ci confrontiamo. Ma no, il modo noi ci confrontiamo. No, noi in questo caso con Don Livio. Cioè, io trovo legittimo tutto. Lo ammiro anche per le sue convinzioni, cioè per il modo in cui molto esterna. Sì, ma questo è siamo una sorta di predicatore. Ma qui siamo a tutto finito, cioè qui siamo a Giulia Claire, diciamo, sì, Giulia Claire. Altro cioè, che giù. Almeno faccia lo speaker, il direttore di Radio Maria, una radio così composta, diciamo, tutte musiche celestiali. Che dice che... No possible! Dai, si augura la morte alla Cirinà, Don Livio no Fanzaga, ma è una vergogna, ragazzi. Io sono una persona che non si scandalizza di nulla, però di fronte a uno, un signore, un prete, Don Livio Fanzaga, una persona molto influente, molto importante nel mondo cattolico, che si augura la morte a una senatrice, non mi importa di quale partito, semplicemente perché è diventata il simbolo delle battaglie per le unioni civili, per le unioni tra gli omosessuali, per il matrimonio, forse anche l'adozione. Beh, questo no, amici miei, no. Hallelujah. È stato interessante ascoltare l'intervento introduttivo di Monica Cirinna. Lei questa qui mi sembra un po' la donna del capitolo 17 dell'Apocalisse, no? La Babilonia, insomma, che adesso brinda prosecco alla vittoria. Signora, arriverà anche il funerale, stia tranquilla. Glielo auguro il più lontano possibile, ma arriverà anche quello. Brinda collegato al funerale, cioè si augura il funerale, no, arriverà pazzesco, anche pazzesco. Il funerale. Dai su, ragazzi, è veramente una vergogna, dai. Qualcuno, il Papa intervenga il Papa a questo punto. Non avrà un'influenza non diretta dal punto di vista dei soldi, credo. Magari gli danno i soldi pure il Vaticano, non lo so. Ma insomma, intervenga il Papa e... Non so in che modo, perché io non voglio non che si spenga modo, nulla, non capito? Non è che voglio togliere il microfono ad Olivio Fanzaga. Però qualche cosa bisogna fare, dai, qualche cosa. Licenziato da Radio Maria e poi lo prendiamo noi, liberali, radicali. Bellissimo sarebbe licenziato da Radio Maria, ma poi assunto qui alla Zanzara come grande commentatore mariano. Stupendo sarebbe. Allora, sentiamo adesso la voce di un giudice di Palermo che si chiama Fasciana. Sì. Il quale ha deciso di assolvere un signore di oltre 60 anni, un capo ufficio, chiamiamolo così, di Palermo, che ha nome e cognome per carità, solo che in questo momento non me lo ricordo, il quale signore ha qualche volta palpeggiato due signorine, due impiegate, due sue sottoposte, chiamiamole così, ed è stato assolto. Le motivazioni dell'assoluzione, perché è immaturo, sono abbastanza curiose, abbastanza... Il giudice Fasciana. È che loro stesse hanno qualificato i fatti come scherzo di una persona immatura. Mm. Non può considerarsi un buffetto sul sedere, così hanno dichiarato le persone offese, oppure il toccare il bottoncino della scollatura di una ora come fatto avendo una connotazione sessuale. Ma il top è questo, sentite. Pensi un po' che la Cassazione, sì, in una sentenza in materia, ha confermato l'assoluzione di un imputato che aveva addirittura penetrato con una chiave l'ano della compagna, perché ciò era avvenuto nel corso di una lite e quindi era ravvisabile sulla base degli atti un fine non sessuale, ma una finalità di umiliazione, sì, dell'altra parte. Vabbè, spero che questo qua sia stato condannato per un altro motivo, magari non per stupro, non per violenza sessuale, magari è stato condannato per violenza pure semplice, sì, quello che ha penetrato il giudice. Non lo ripeto. Comunque, ragazzi, diciamo la verità, c'è un sacco di gente, adesso lo dico in maniera aperta, mi attirerò tutte le accuse possibili dalle femministe, dalle donne, eccetera eccetera. C'è un sacco di gente, io lo so, che porta in tribunale gli uomini. Io non ho mai toccato nessuno, non darei un buffetto a nessuno, non toccherei il culo a nessuna persona, figuriamoci sul posto di lavoro, so benissimo quali possono essere le reazioni. Però c'è un sacco di gente che porta in tribunale gli uomini semplicemente perché fanno qualche apprezzamento, o perché magari passando accanto ti fanno un buffetto, oppure dico ammazza che belle tette che c'hai, no, oppure danno un colpetto. Su questo non ti seguo, perché in un paese in cui le donne... si succederebbe l'inferno. Esatto, anche, ma sì, infatti. Sì, troppo. No, non è mai troppo. Dobbiamo prendere tutto per tutto, ad esempio. Non è mai troppo, perché purtroppo le donne violate, massacri. Ma che c'entra quello? Dai, no, su. Ma come che c'entra? Cioè, fai un buffetto a uno così sul sedere e ti portano in tribunale. Ma, ma come un buffetto? Ma no, ma per dire. Ma no, un buffettino così, ma che no? Vuol dire buffetto? Se uno che vuol dire buffettino? Se una che viene perseguitata, ma no, ma anche, se ogni giorno c'è uno stalkeraggio, anche il buffettino, sono d'accordo. Che vuol dire? È una violenza. È una violenza. Ma certo che è una violenza, però non è che vai in tribunale. Cioè, se lo ripeti 100 volte, sì, perché sei un coglione. Ma se per una volta dai un buffettino così, sei un coglione lo stesso, quella ti dice non lo fare mai più, punto e basta. Sei un malato. Vabbè, dai, su. Luca, Reggio Emilia, vai, iniziamo. 800-24-00-24, vai. Cruciani, ho appena avuto una visione da Dio. Cioè? Tu sei l'anticristo. Beh, l'anticristo, non esagerare. Sto venendo a Milano esorcizzati. Sei venendo a Milano a che fare? Stai venendo a Milano a che fare? Esorcizzo. Mi esorcizzi. Sì, vabbè, sì, ma sì, tu sì, che sì. Non hai nessun potere per esorcizzarmi, non sei padre Amor. No, me l'ha non... dato adesso in questo momento Gesù Cristo. Sì, te l'ha dato Gesù Cristo, dai, su, non dire puttanate, dai. Cruciani, padre Livio lo conosci? No, lo conosco di voce. Di voce, sì. Lo conosci, l'hai visto. Ma l'hai che c'entra? Visto come persona. Ma che vuol dire? Io ascolto quello che dice, mi basta ascoltare quello che dice, no? Cioè, che, ma cosa tu vuol dire? L'ascolti solo quando dice le puttanate o lo ascolti? Ma non c'entra niente sempre. Qui. Limitiamoci a questa cosa qui. Limitiamoci a questa allora, cosa limitiamoci qui. A questa ecco, cosa benissimo. Ha augurato allora, la morte alla Cirinnà. Padre Livio è un uomo di quanti anni? 70 anni. Ma non mi interessa cosa c'entra no, l'età. Fammi finire di parlare. Dimmi. Che ha combattuto tutta la vita contro i matrimoni omosessuali, allora, contro l'adozione benissimo, agli omosessuali. Mi sta bene. Quando una vede brindare il col prosecco, qual è il problema? Allora, scusa, quella è una. La senatrice Cirinnà è una che tu la potrai disprezzare. Potrai considerare questa battaglia una cosa sbagliata. È una che ha portato avanti un disegno di legge e dunque brinda, a parte che non so a cosa si riferisce, perché è forse una speranza quella di brindare, perché per adesso non è stato approvato nulla. Ma va a morire ammazzato. Ma non ci credo che non l'hai mai detto a nessuno. Va a morire ammazzato. Non è ironico proprio per niente. Non c'è ironia. Guarda, c'è se ci fosse ironia. Stata ironia, amico mio, sarebbe stato diverso. Dai, su. Sei l'anticristo, anche Parenzo lo sa. Vabbè, ciao, Daniele da Roma. Non c'è nessuna ironia in quella roba là. Daniele da Roma, dai, su, non diciamo puttanate. Daniele. Ciao Giuseppe, ciao David. Dimmi. Ciao, caro. Allora, io volevo dire una cosa. Ho trovato più grave l'augurio di morte, vabbè, sia pure scherzoso, di Parenzo per Mauro da Mantova. No, mai, non è un augurio. Che non quello di padre Livio. Ma no, ti spiego, Giuseppe, fammi parlare. Non è un augurio di morte. Padre Livio intendeva solamente dire che al momento della morte risponderà davanti a Dio. Non ha augurato la morte a nessuno. No, ma neanche io, figuriamoci, 99 anni, ragazzi. Se uno vive fino a 99 anni, Daniele, scusami un attimo. Scusami, se vuoi essere fazioso, il conto è fino. D'accordo, allora non ha augurato la morte a nessuno. Ha detto questo solamente, l'ha detto solamente. L'audio che abbiamo sentito è molto, molto chiaro. L'audio che abbiamo sentito è soggetto ad interpretazione. Quale interpretazione? Da persona che c'era un po' con la Chiesa, Giuseppe, perché tu sei tanto simpatico e fa io non ce l'ho, ma che due. Vuol dire però non tu c'hai un po' il ben giallo avvelenato con la Chiesa, ma non c'entra niente, ma io posso anche considerare la Chiesa un'istituzione nefasta, ma quello che c'entra, scusa, una cosa, ma cosa c'entra? Sono membro dell'RDR, grandioso, e saluto tutti, voglio dire, la Zanzara è fantastica. Però basta tutti questi discorsi assurdi, non se ne può più. Ma quali discorsi assurdi? Della Chiesa e delle imitazioni di Parenzo di Capanna. Vabbè, ciao. Cioè, è un'opinione ciao. Come tante, per carità, la rispetto, ma chi se ne frega, sono sempre andato avanti per la mia strada facendo le mie cose, anche quando la gente mi diceva no, certo, non dire quella cosa, non fare quell'imitazione, non fare questo fa schifo. Singole opinioni rispettabili, ma me ne fotto. Alessandro da Lecce. Buonasera. Dimmi. Premetto che non sono cattolico, ma è chiarissimo quello che voleva dire Don Livio, semplicemente è molto chiaro, dopo, non c'è dubbio. No, dopo il funerale andrà incontro alle sue conseguenze. Sì, ma perché? Ma scusa, ma perché deve evocare? Chiesa, sì, eccetera, ma se uno evoca il funerale. Avete compiato un caso assurdo sul nulla. Ma quale nulla, dai, su, ragazzi. Nulla, ma non è che ne parliamo solo noi, è da stamattina. Non c'è proprio, non ha detto proprio quelle cose, basta, è facile. E che ha detto? Scusa, adesso facciamo l'esegesi di parole. Ma adesso non è che c'è da interpretare. Ma non c'è da interpretare. Peraltro, un uomo di chiesa che cita la Bibbia e la morte, il messaggio è ancora più chiaro. Perché un conto è dire va a morire ammazzato, che è un modo di dire. Un conto è dire, come dice lui, che usa il linguaggio della Bibbia augurando la morte. Ragazzi, è diverso. Bibbia, se io dico va a morire ammazzato, è un modo di dire, no? Fallo risentire. Per un'altra cosa, per la donna di Babilonia. Cioè, voi dovete ascoltare le cose. L'abbiamo ascoltato. Non me ne frega niente. È molto chiaro a tutti. Invece di brindare, invece è inutile che brindi, tanto prima o poi muori. Questa è la sostanza. Non c'entra niente, va bene. Allora, Ignazio da Napoli, vai. Ah, salve Cruciani, a Parenzo, complimenti a Parenzo per l'imitazione di Mario Capanna. Vai, dimmi. Allora, niente, allora lo vedete che ci sono opinioni diverse, sì. Non è solo allora, quelle senti. Solo quelli là allora, che dicono no, basta, avete rotto i coglioni, sì. Pure questi, hanno rotto senti, i coglioni. Allora, io sono un cattolico praticante, frequento i sacramenti e con i fratelli cerchiamo di aiutare le persone in difficoltà. Con i fratelli? Però quali io fratelli? Dico questo. Con i compagni? Scusami. Quali fratelli? Permetti? Allora, io dico questo, noi non ci sentiamo rappresentati né da Padre Livio Fanzaga. Vabbè, né d'accordo, da ma noi chi? Noi chi? Noi cattolici. Ma noi, no, ma tu non, non, tu non rappresenta, ma tu non rappresenti, non rappresenta, ma tu rappresenti solo te stesso, cioè questo deve sì, essere chiaro. Ma voglio dire, non, io l'ascolto a volte Radio Maria, però le posizioni che loro hanno riguardo ai diritti civili vabbè. Degli omosessuali non sono non va bene, rappresenta poi, poi? E innanzitutto, e poi voglio dire un'altra cosa riguardo alla questione della, del diritto ai gay, diciamo, vabbè, e al mondo. Amico mio, fermo là, fermo là, fermo lì, fermo, fermo, fermo. Che cazzo vuole questa zanzara molesta di merda, lui e quell'altro stronzo che gli sta a fianco? La zanzara. Veramente, io di voi uomini non so più cosa pensare. Cruciani che lascia la pashmina e non dice la verità di dove è stato. Parenzo che viene da me e dice che è stato dal dentista. Parenzo, guarda, sei una cosa, sei incorreggibile proprio. E quello che ti ho fatto io la chiami punturina, Parenzo. Punturone ti ho fatto, Parenzo, Non ce la racconti giusta sul dentista, eh? Dove sei andato? Che gente! Che dove gente. Sei andato? Dal dentista sono andato. Dall'amico Procio, di cui non ripeterò il nome, peraltro, perché altrimenti si dice. Allora, qualche notiziola divertente, ragazzi. Sui vegani, sui nazi vegani, fare attenzione a uno studio dell'Università Medica di Graz in Austria. Non so che reputazione abbia questa università, come sapete circolano tantissimi studi, alcuni anche abbastanza folli. E questo studio dell'università, ripeto, Medica di Graz in Austria, qui vicino, sostiene che chi non mangia carne gode di una qualità della vita peggiore e ha più bisogno di assistenza medica. Il problema è la dieta sbilanciata, più ansia, depressione e allergie. Capito? Non dico che ci dovete credere, però attenzione. Oh, la questione dei cinghiali in Toscana. Un biologo molto stimato anche qui, un signore che si chiama Zaccaroni, Università di Firenze. Sterilizzare i cinghiali? Praticamente impossibile, perché qualcuno vorrebbe sterilizzarli, capito? Perché in questo perché modo così sono... non si riproducono. Sì. Forse sono anche meno pericolosi. È costosissimo, troppo costoso sterilizzare i cinghiali. Beh, infatti non ha senso, è contro natura, questo è contro natura. Ci vuole solo il fucile. Con i cinghiali, solo il fucile. Vogliamo parlare di questa noia mortale della questione PD contro Giannini, Renziani contro Giannini. Questa però è una storia pazzesca. Non è nessuna storia, interessa solo te. Questa interessa solo te. È una storia pazzesca. Perché se ci fosse tant'è. Stato di mezzo Berlusconi, invece sì, avrebbe certo, interessato le masse. Allora, facciamo un piccolo riassunto. C'è una parte del PD molto renziana che non sopporta che in televisione ci siano persone che dicono quello che pensano e che conducono la trasmissione come diavolo vogliono loro, molto pensando bene. Soprattutto all'audience, ai risultati, no, eccetera. A fare informazione. Ma no, a fare informazione anche a fare opinioni. No, cioè ognuno dice quello che pensa. La frase che l'ultimo caso che riguarda Massimo Giannini, conduttore di Ballarò, è quella dei rapporti incestuosi tra il padre della Boschi e la figlia Maria Elena Boschi sulla vicenda della Banca Etruria. È successo un casino pazzesco, intervento da parte dei renziani contro Giannini. Giannini ieri in apertura di Ballarò ha detto questa frase, ha pronunciato questa frase. Non spetta alla politica decidere i palinsesti, non spetta ai partiti decidere chi può lavorare nella più importante azienda culturale di questo paese, a meno che non si debba dar ragione a Roberto Saviano, quando scrive ciò che sotto Berlusconi era inaccettabile, adesso è grammatica del potere. Oh, Crozza sulla frase di Gandolfini, il sesso si fa per fare i figli, non per piacere, dai. Sempre sabato dal palco è arrivato a dire il sesso non è un piacere e io sono d'accordo con Gandolfini. Io lo sostengo da sempre. Infatti, se mia moglie dovesse beccarmi con un'altra, io le dirò: ma amore, tu credi che io mi diverta? Ma questa non è male, però, eh? Cioè, se ti pizzicano, sì, era fortissimo. Cioè, sì. Se ti fai una trombata con un'altra mentre sei fidanzato, sposato, quello che è, puoi dire: beh, ma scusa, e sei cattolico, naturalmente, ma io non l'ho fatto per piacere, perché il sesso non dà piacere. Continua intanto la polemica sulla battuta di Gasparri, sulla frase di Gasparri a Lucci, alle Iene, in cui ha detto: vabbè, ma questo no, non è il Family, è il Family Day, non l'Handicappato Day. Molte associazioni hanno detto: lui si è scusato via Twitter, Gasparri. C'è stato l'intervento, di un deputato che credo abbia delle disabilità, di chiamiamole deputata. Così, no, di un deputato dall'osso del Movimento 5 Stelle. Sì. Io non so che tipo, no, perché di, perché ci sono una deputata del PD molto brava, che peraltro anche lei è disabile, che è incazzata con Gasparri pure lei. Beh, sì. Allora, dall'osso, ma dovrebbero essere incazzati tutti, non i disabili. Lui però ha chiesto scusa, cioè, ha i chiesto... primi a essere incazzati dovremmo essere noi, che ci dovremmo vergognare di questa cosa, cioè vergognare di avere Gasparri ma in serata. Ma sì, no, dice. Perché è come dire il giorno della memoria, che si ricorda lo sterminio degli ebrei e l'apertura dei cancelli di Auschwitz, c'è la giornata degli ebrei. No, deve essere la giornata di tutti quelli che non lo sono ebrei. È così uguale. Ma che c'entra questo? È un paragone per dire che tu, gli indignati, non dobbiamo lasciare l'indignazione solo a chi ha problemi disabili, di handicap, insomma, ai disabili. Dovremmo essere tutti noi più indignati dei disabili stessi. Ma altro io non che... mi indigno per nulla. È una battuta infelice. È una battuta infelice. È una battuta infelice. Dai, l'Handicappato Day. Non siamo all'Handicappato Day. No, ma perché è un modo di dire. L'ha detto in maniera un siccome po' dispregiativa. È un modo di dire. È un modo di dire sbagliato. Vabbè, perché d'accordo. È nella cultura. Si sedimenta comunque. Nella cultura. Ma comunque che si sedimenta. Sì, comunque ne parleremo. Con 5 Stelle, dai. Con Barisoni e altri. Ma che c'è tra Barisoni? In altri approfondimenti. Con Armando Torno. Ne parleremo con Armando Torno. Io, in quanto handicappato, avrò le mie disabilità, ma le assicuro che sono capace di mandare il vicepresidente del Senato a fanculo. No, onorevole Dall'Osso, per favore. Grazie. Giachetti l'ha interrotto, poi in questo caso era un vaffanculo liberatorio, per cui però non era stava, il caso, guarda, da interrompere, non era il caso stava, di interrompere. Dall'Osso dice anche che Gasparri si deve ritirare dalla politica. Ecco, l'utilizzo, peraltro fuori dal tempo, del termine handicappato come insulto è deplorevole e schifoso per qualsiasi cittadino, figuriamoci per chi ha un ruolo pubblico. Gasparri deve dimettersi dall'alta carica che ricopre e direi ritirarsi per sempre dalla politica. Allora ragazzi, andiamo a Umberto, provincia di Chieti, poi ancora Marcello, Giancarlo, Mauro da Ferrara e altri ancora, vai, non da Manto, vai, Mauro da Ferrara, là vicino. Umberto, vai. Buonasera Cruciani, dimmi. Da Parenzio. Ascolti, volevo testimoniare la mia paternità, la mia terza paternità, ricevuta per grazia di mia moglie. Sì, una per grazia di tua moglie, con il tuo contributo, diciamo, no? Con il tuo attivo contributo, quei 30 amore, secondi, certo. Beh, col tuo contributo, per grazia di mia moglie. Beh, no, questa, ragione, questa, grosso, visione, questa visione. Ma ha ragione. No, ragione, ma c'è una visione per così. Grazia di mia beh, moglie. Grazie, la moglie c'è avete stata 9 mesi. L'amore, avete ma trombato, ma quello scusami, che avete fatto un figlio. Parlo anche per conoscenza diretta e personale, vabbè, visto che sta per arrivare il terzo figlio. Quello ci ha messo 30 secondi, questa qui 9 mesi. Cioè, voglio dire, c'è una bella differenza. Vabbè. Lui si è divertito a 30 secondi al massimo. Che ne sai che 30 secondi? Magari ha fatto 40 minuti di trombata. Ma che 42 secondi? Umberto, saranno. Quanto ci metti? L'altro a fare 9 mesi. L'altra 9 mesi. Guardi, ragazzi. Sulle mie prestazioni ve le lascio interpretare, perché tanto se dicessi poco, do ragione a Parenzio. Se dicessi tanto, vorrei fare il supereroe. No, ma ti sto difendendo perché Parenzio ha detto 30 secondi. No, scusa, per dire, insomma, che è chiaro. Non beh, probabilmente non abbiamo le prestazioni in parallelo, io e Parenzio. No, a questo sicuro, lei deve aggiungerci 1-0 per me. Comunque. Comunque niente, io volevo dire che 300 secondi sono pochi, però un qualcosa che si prova nel fare l'amore con il proprio partner vabbè. E dare così alla luce un figlio, da quest'amore nasce un figlio, penso sì. Che sia un qualcosa di insostituibile. E vabbè, nessuno dice il contrario. Benissimo, e va anche rispettato, perché ultimamente con tutte queste considerazioni che ma chi non lo rispetta, ma chi c'entra, che collegamento c'è, fatto, coppie ma di scusi, non fatto, guardi, io penso che sia un oltraggio alla vera famiglia, a chi si vuole bene, sposati non sposati va benissimo, ma l'uomo e la donna hanno un ruolo centrale della vita delle persone. Sì, però, Umberto, tu poi vuoi essere una diversità, va bene, la voglio rispettare, ma un altro po' qui siamo esseri condannati noi. Ma chi lo dice? Ma questa è una mistificazione della realtà. Nessuno di coloro i quali sostengono che ci vogliono i matrimoni e anche le adozioni, ma limitiamoci ai matrimoni. Nessuno di quelli vuole distruggere quello che lei ama, quello che piace a lei, cioè il rapporto sessuale con sua moglie e il fatto di avere messo al mondo un figlio. Nessuno lo vuole cambiare, nessuno lo vuole distruggere. Ma no. Di cosa sta parlando? No, anzi, guardi, io penso che venga mistificato questa cosa con le adozioni diverse di coppie differenti. Ma guardi, sono cose impronunciabili. Io vorrei l'utero in affitto, tutta la prendi con l'utero in affitto. È una bestemmia colossale. Ma guarda, l'utero in affitto non è ammesso in Italia. Non è ammesso, non è, per me dovrebbe essere ammesso, dovrebbe essere legge. Per Parenzo no, ma no, assolutamente vietato, assolutamente. Vabbè, ma allora qual è il punto? Il 99% delle volte mi trovo in disaccordo con Parenzo, purtroppo su questa cosa mi ci devo trovare purtroppo. Vabbè, allora non ho capito, Umberto. Vorrei portare un esempio banalissimo. Che per me ha una valenza e una profondità immensa. Io ho avuto la fortuna di assistere a tutti e tre i parti di mia moglie. Che c'entra? Ma chi se ne frega? Mi faccia finire. Guardare? Guardare il proprio figlio che per istinto ha l'istinto di attaccarsi al seno della madre, guardare la poppata del figlio è un qualcosa di inimmaginabile, indescrivibile, è l'essenza dell'amore. E dunque... Quindi una coppia di fatto, lei mi può dire come fa a paragonare questa cosa? Per me la coppia di fatto vuole dei figli soltanto per moda, è come chi ha l'esigenza di portare a spasso il cagnolino perché ce l'ha il suo vicino, perché ce l'ha il suo amichetto. Ma non puoi dire, per me questo ma non è soltanto puoi dire. Una questione di ma non puoi dire che, una questione... che vogliono che pensano... vogliono un bambino come se volessero un cane, ma sei una vergogna, dai, su. No, è una vergogna quello che vogliono fare, questi diritti riconosciuti. Ma quali diritti? Hai una diversità, te la devi accettare e te la tieni in casa, non la puoi mettere in piazza. Così. Ma perché diversità? Scusami, perché perché diversità? Per me l'uomo è uomo, la donna è donna, tutto quello che il frocio, non il frocio che cos'è? Il frocio è una diversità ed è una perversione. Ecco, siamo arrivati lì. Io la vedo così. Due che si inchiappettano una perversione, due che si inchiappettano una perversione. Certo, sì. Una schifezza. Una cosa deplorevole. Le ripeto, vabbè, è un mio pensiero, sicuramente non sarà quello, non c'è dubbio che tu sia il tuo pensiero. Non so di chi deve essere, scusami Umberto, stai parlando tu, di chi deve essere? Non sei portavoce di nessuno, non è che rappresenti... No, infatti, non rappresento chiese, non rappresento istituzioni, è un mio libero pensiero. Scusami un attimo, tu sai che l'omosessualità, dal punto di vista anche sessuale, esiste da quando esiste l'uomo? Sì, lo sai, sì o no? Sì, però allora in questi facciamo? Ultimi la anni c'è questa lobby gay che sta portando non avanti questi lobby. Diritti, per fare ideologia che? Gender. E dunque per fare che? Per sostituire la famiglia a una famiglia così, a un'altra famiglia? Non ho capito, perché sì, cosa? Sì, e allora me lo spieghi lei perché c'è questa ideologia gender allora, che vuole essere diffusa amico mio, nelle il scuole. Punto fondamentale è, a mio parere, l'amore e l'affetto. E io ripeto per l'ennesima volta, un figlio può crescere tranquillamente in una famiglia omosessuale con l'affetto che nello stesso modo in cui cresci in una famiglia eterosessuale. Ci sono traumi, traumi che possono accadere in una famiglia omosessuale e traumi che possono accadere in una famiglia eterosessuale. Le percentuali sono più o meno le stesse. Ma lei ha visto le tragedie che succedono nelle famiglie tradizionali oggi? Lei lo sa, le tragedie immani che accadono, immani, gente che ammazza figli, gente che ammazza mogli, qualsiasi cosa succede nella famiglia tradizionale, ma è normale. Figli che ammazzano genitori. Dai, su. Umberto, comunque la cosa incredibile è che tu ancora oggi, nel 2016, consideri perverso l'amore e il sesso tra due omosessuali, capito? Certo. Cioè, io vorrei... Ma perché non fai un giro con me? Ti porto a vedere delle scene bellissime, gente che si bacia, promiscuità, cose normali, la normalità della vita. Al solo pensiero mi si arriccia la pelle. È un qualcosa di disgustoso e deplorevole. Disgustoso e deplorevole. Si gela il sangue, vorrà dire. La pelle è un po' difficile che si arricci la pelle. L'arricciamento della pelle com'è? Cioè la pelle che fa? Si incarna lì? Non lo so, diventa sì, come carta impecorita. Ciao Umberto! Ciao. Saluti. Siete due delinquenti, due grossi delinquenti. La Zanzara. Allora, Allora ragazzi, vogliamo ricapitolare la vicenda Napoli? Ricapitoliamola in questo modo, perché molti non hanno capito e mi hanno attaccato dappertutto, soprattutto su questi famosi social, Parenzo, i social su internet. Allora, ieri mi arriva una mail, lo ripeto per l'ennesima volta, mi arriva una mail, una segnalazione, da parte di un ascoltatore che mi dice: guarda un po' questa qui, che cosa ha scritto, una tale Fabiana Pacello, napoletana, però anche insegnante in un istituto tecnico, in due istituti tecnici, nonché, almeno c'è scritto così sul suo curriculum online su Facebook, nonché dottoranda in germanistica all'Università La Sapienza di Roma. Bene. Dunque, non una tifosa qualunque, no? Cioè, non un ultras, si immagina. Ma sì, un ultras magari, però un ultras probabilmente laureata, insegnante, cioè insegna qualcosa, la quale scrive: non vogliono farci andare allo Juventus Stadium perché si cacano sotto, e fanno bene, perché se ci girano le palle qua succede la seconda edizione dell'AISL. Per la cronaca, io di quella gente non ho pena, cioè dei tifosi della Juventus, perché penso che se la siano andata a cercare. Si è scoperto dopo che questa signora, questa Fabiana Pacello, ha scritto anche altre cose. Per esempio: buongiorno e buona domenica da una tifosa del Napoli. Se qualcuno di voi ha pisciato sangue, colpa mia, vi ho mandato l'augurio di un tumore alla prostata. Forse è rivolto anche questo ai tifosi della Juventus. Dopodiché, altro post che ha scritto: in questi ultimi tempi sto sentendo parlare molto della coppia dell'acido e sto pensando che dovrei prendere esempio. Se acchiappo uno di voi lo sfregio con l'acido, e se ha moglie e figli sfregio anche loro. Andrò in galera contenta perché mi sarò tolta una grande soddisfazione. Adesso spero che queste cose qua siano vere, non siano fake, usciti, eccetera. I segugi della rete. Noi ieri l'abbiamo chiamata, è l'unica voce che rimane, perché poi si è blindata la signora Fabiana Pacello. Risentiamo, fa sempre bene risentire le cose. Pronto? Sì, signora Pacello? Sì, chi è? Sì, buonasera, qui Milano. Mi dica. Salve, buonasera. Ho letto un post su Facebook. Sì, mi dica. Sul Juventus Stadium. E allora? Beh, mi sembra piuttosto grave. L'ho cancellato. Ma perché l'ha scritto? Non lo so, l'ho scritto e basta. Ma voi chiamate da Milano, ma di preciso chi siete? Radio 24, salve, buonasera. Non avete un cavolo da fare? Non vogliono farci andare allo Juventus Stadium perché si cagano sotto. Vabbè, fin qua ci siamo, no? Scusate, ma voi che ve ne importa di quello che ho scritto io? Non vi conosco, non vi voglio rispondere. No, ma scusi, scusi l'aggressività del collega. Intanto scusi. Buonasera, sono Parenzo. Sì, mi dica. Ecco, scusi l'aggressività. Che cazzo le è venuto in mente di scrivere? Scusi l'aggressività del collega. Ma a lei cosa importa? Stiamo facendo roba confusa. Le ripasso il collega, però calmiamoci. Prego. Allora, lei ha evocato l'AISL, ha capito? Cioè, se ci girano... Ma evocano sempre il Vesuvio, allora? Ma se ci girano le palle, facciamo un secondo AISL. Lei fa la professoressa. Cioè, non è una persona qualunque. Cioè, fa anche la giornalista, la professoressa. Ma le pare normale? E le pare normale quello che scrivono sul Vesuvio tutti i santi giorni? Sì, ma lasci perdere il Vesuvio. Se ci girano le palle, qua succede la seconda edizione dell'AISL. E poi dice che lei addirittura dice che se la sono andata a cercare. Non si può dire più quello che si pensa. Lei pensa davvero che i tifosi della Juventus se la siano andata a cercare, l'AISL? È probabile. Ma com'è probabile? Ma sono stati... Cioè, ci sono 30... oltre 30... si pente. Cioè, lei non si pente di questo post? Senta, ma lei cosa importa? Io non la conosco, non la voglio conoscere. Mi lascia perdere cortesemente. Ma non scusi, si vergogna, signora, calmiamoci, po'... No, calmiamoci, perché qui mi pare che ci sia un clima un po' agitato. Scusi, signora. Sì, scusi, sì. Il collega. Senta, io ho da fare, a differenza vostra. No, scusi. Scusi. Little Johnny the Cockeroo. I'm a man. I spell M. Hey. Allora ragazzi, andiamo in provincia di Catania. Marcello, questa non risponde più, sta maledetta. Marcello, provincia di Catania. Marcello, dimmi. Buonasera. Vai, dimmi. Niente, non mi fa piacere parlare con lei, però mi fa piacere parlare con i suoi ascoltatori. No? Perché non ho capito, ti fa piacere parlare con gli ascoltatori? Sì, non mi fa piacere parlare con lei, quanto invece me ne fa parlare con i suoi ascoltatori. Sì, ma che lei non può parlare con gli ascoltatori, può parlare qui o con me o con Parenzo oppure con tutti e due, cioè non è che lei sceglie, parlo con gli ascoltatori, cioè si rivolge agli ascoltatori. Lo so che quando lei non gradisce chiude il microfono. No, veramente è il contrario, non avete capito una mazza, è esattamente il contrario, cioè è esattamente... interrompe per non far parlare. Vabbè, ma questo è il potere di chi lo detiene, lo esercita bene questo potere del microfono, così come faceva Parenzo l'altro giorno con la gentilissima Costanza Milano, che erano 6-1 e valeva la voce di dire la... non è un problema, non si preoccupi. Niente, dicevo, vedo che è combinato un po' maluccio, perché non so se ha problemi di udito o se oppure ha una memoria selettiva. Scusi, che a le cosa ha rimosso, si riferisce? Che le arriva, ci arriviamo se mi fa parlare. Beh, che le ha rimosso un po'. Sicuramente le ha rimosso l'elezione di educazione civica sull'educazione, questo lo concordo. Sì, ma io sono maleducato per principio. Le ha rimosso anche, non le dico le esegesi sono bibliche, cafone, del capitolo cafone, maleducato dell'Apocalisse che citava padre Livio, ma le ha rimosso anche le minime fondamenta del catechismo. Allora, padre Livio non mi pare che abbia augurato la morte a nessuno, è la sua mistificazione, E perché non avrebbe augurato la morte a qualcuno? Allora Perché si riascolti l'audio che ha mandato, non ha assolutamente detto questo. Poi se si va a leggere il capitolo cosa ha detto? Se le riascolti, non sono qui per farle... Cosa ha detto secondo te? Non è secondo me. Lei solo vada a riascoltare. No, ma secondo te che cosa ha detto? Magari mi sono sbagliato, dimmi che cosa ha detto. Sì, sicuramente. Sì, però ha esordito con un'offensiva abbastanza grave, no? Io non mi sono sbagliato, è chiaro che non mi sono... No, è ovvio che sei sbagliato, perché No, spiegamelo tu dall'alto della tua cattedra, dall'alto della tua sapienza. Ma ti figuri se io posso andare a spiegare qualcosa a lei? Ma dimmi, lei sa tutto. Io non so niente, questo è il punto. Comanda e dice che... Ma non so niente, spiegamelo. Chiama le persone per offendere a questa definita maledetta... A questa signora poc'anzi l'ha definita maledetta. Beh, certo, padre Livio ha detto che era, come l'ha definito, è un... Un coglione. Bravo, quando dice queste cose è un coglione. Ma scusi, ma lei augurerebbe la morte a qualcuno, non ho capito? Chi l'ha detto? Questo è il punto. Lei è un mistificatore quando dice perché non ha detto questo. Adesso faccio risentire l'audio. Aspetta, così non risenta. Aspetta, Marcello. Faccio così che è carino. Insulti, bravo cattolico. Insulti, bravo. Aspetta, insulti, bravo. Non mi prenda in giro con la vocina. Mistificatore. Io sono una persona seria. Mistificatore. Seria, la vocina inebetita non la fa con me. Aspetta, Marcello, faccio risentire l'audio, così dopo dall'alto della tua cattedra mondiale in... Senti qua, professore, senti Don Livio. In biologia? Non mi prende in giro. Ma amico mio, ma hai esordito dicendo qualsiasi cosa su di me, adesso non posso fare una piccola ironia sul fatto che parli dall'alta cattedra della religione. Dai, su, non mi rompere i coglioni, dai, vai, audio. È stato interessante ascoltare l'intervento introduttivo di Monica Cirin. Lei questa qui mi sembra un po' la donna del capitolo 17 dell'Apocalisse, no? La Babilonia, insomma, che adesso brinda prosecco alla vittoria. Signora, arriverà anche il funerale, stia tranquilla, glielo auguro il più lontano possibile, ma arriverà anche quello. Fermi tutti, ci sentiamo tra un attimo. Che mondo sarebbe senza la zanzara? La zanzara. Nolente o dolente, chi sale sul mio autobus ascolta la zanzara. Io sono un untore di zanzara. Mi è venuto avuto un'idea, ma perché a scuola non sostituiamo l'ora di alternativa alla religione con un'ora del meglio della zanzara? Secondo me è molto più educativo. Allora, Monica Cirinà ha risposto a Don Livio Fanzaga su Twitter mandando il video di Troisi, che spesso abbiamo mandato anche noi. Me lo segno. Ricordati che devo morire, no? Me lo segno. E poi ha scritto "Mo me lo segno". Ragazzi, poi io, capito, una risata lo seppellirà. No, ma io passare come quello conformista, come quello, perché adesso chi appoggia le unioni omosessuali e chi appoggia, per quello che mi riguarda, anche l'adozione, viene visto come uno conformista, il politicamente corretto. Cioè, bisogna passare dalla parte di Adinolfi. Io l'ho sempre detto, molto prima di tanti altri che adesso salgono sul carro delle leggi. No, per esempio, Alfano, questi qua, questa è la vera vergogna. Cioè, questi qua che sono contrari Alfano e compagnia cantante, tutti i centristi che sono al governo, i cattolici, anche quelli che sono nel PD, che sono contrarissimi alla legge Cirinà, e solamente per salvare il culo. Solo per salvare il culo e la poltrona, solo per salvare il culo e la poltrona, votano questa legge, perché i primi a votare contro, e dovrebbero dirlo, a testa alta, sono Alfano e i suoi. Invece, per salvare il culo, ma mica voteranno a favore questi qua. Certo che voteranno a favore. Si asterranno. Sicuramente voteranno a favore per salvare il culo. No, perché non c'è mica la fiducia. Adesso Alfano che dice no, sarebbe innaturale una legge votata tra PD e Movimento 5 Stelle. Sarebbe innaturale una legge votata tra PD e Movimento 5 Stelle. Questa è la vergogna. Però scusa, Alfano, non è che può votare a favore e poi proporre il referendum. Dire quello che pensa. No, però scusa, sarebbe una contraddizione se lui votasse. Io capisco la che legge. Tu vuoi fare il difensore di Alfano, no, non so per quale motivo. Esattamente il contrario. Cioè, dico, sarebbe assurdo che lui qualche giorno fa ha detto chiederemo il referendum per l'abolizione della legge. E la vota? Per non essere così arzigogolato. No, ma è semplice. Cioè, la gente non capisce un cazzo. No, questo qua è un difensore dei valori. No, non hanno un difensore dei valori cattolici. Capito anche Mercù? Difensore dei valori cattolici. Ha capito anche Mercù? Il difensore dei valori cattolici che vota la legge Cirinà dal suo dopo aver secondo osteggiato. Me non la voterà. Vabbè, vedremo. Perché se l'altro giorno ha detto vorremmo fare un referendum per l'abolizione della legge, come fa a dire facciamo il referendum e votiamo però a favore? Ma mi pare una cosa folle. Ma è questo il punto, capito? Il punto è questo, pur di non far cadere il governo, pur di non mettere in difficoltà. Ma non c'è la fiducia su questa roba. Ma non c'entra roba. Niente, è chiaro che se non passa questa legge il governo cade, no? Come cade? Ma che certo cade? È un provvedimento come tanti altri, purtroppo. Ma, vabbè, no. Mauro Domanto, ma chi è Mauro per davvero? Ha chiamato? Mauro? Ehi! Ha chiamato Mauro. Che c'è? È confondibile. Che c'è? Chiama lui, dice che c'è. Mauro, che hai chiamato a fare? Non sono argomenti tuoi questi qua. I gay. Non farmi. Allora, prima di incazzarmi, alla ciao amigos, ladra, è inutile che scappi, tanto prima o poi ti prendo. Capito, Joe? Molto chiappo. Ma chi? Chiudo, a chi ti stai riferendo? È una della chat che lei capisce, lei sa. Ma chi sei la chat? Ma che sei in chat? Lei sa. Ma chi sei? Questo sta in chat con le donne e poi ci riferisce quello... Ma che chat con gli uomini? Ma sono mica un fuoco come quello che hai a fianco, eh? È impazzito. Guarda, Mauro, ma ti metto oggi. Oggi con ma no, Mauro, dai, su basta con queste cose. Non mi interessa adesso, dai, quello che dici. Allora, su... ascolta, state parlando di leggi che sono assurde. Assurde. Cos'è assurdo? Qui c'è la gente che si suicida, che dorme in macchina e voi parlate di cazzate senza che non... Cioè, non aspetta, fai capire una cosa alla gente che ascolta, altrimenti... Innanzitutto mettiti più vicino con il microfono, sennò non si capisce niente, oppure leva il via voce. Ma quello ascoltami che... Ascoltami bene. Scusami, Mauro, tu dici che ci sono problemi più importanti rispetto alle coppie... Ma puttana, che... ma certo! C'è vabbè, ma, vabbè, ma chi se ne frega? Non va ad arrivare alla seconda settimana, ragazzi! E allora? E allora voi state parlando di una legge del progetto, la lesbicetta, ma se vanno a pigliare il culo, vacca puttana! Okay, ma qui cosa ne frega di loro? Salendilo! Qui si sta parlando però di diritti, se vogliamo, no? Di... Ma che diritti? Matrimonio, allora, adozione... Non hanno diritti quelli lì? Ma che c'entra? Non hanno diritti? Sono due partite diverse! Ma come sono due partite diverse? Ma come? Allora come che io dica? Allora, il figlio di Cruciani... gli diamo la bella poltrona al figlio, lo sa, di picco pallino un cacciculo. Una cosa c'entra, ascolta, sono... ragione, Giuseppe, vabbè, Mauro, allora, dunque, Mauro, allora, tu stai dicendo una cosa, adesso non voglio che Mauro da Mantova dice la sua sulla legge Cirinà. Dice che non si dovrebbe nemmeno discutere. Dovrebbe strangolarsi da sola. No, vabbè, dai, Mauro, adesso già ce n'abbiamo uno che ha detto. Dovrebbe strangolarsi da ma sola. Perché? Cosa ha detto? Stronzate. Vabbè, okay? Mauro, vabbè, dai, ma si dovrebbe strangolarsi. No, okay, ascoltami, Giuseppe. Allora, io posso capire se uno voglia stare con un uomo voglia stare con un uomo, ok, non ci sono problemi. La donna vuole stare con la donna, ok, non ci sono problemi. Però i figli te li scordi, ok? Tranne che tu ce li abbia già da prima. Allora è un altro discorso. Ma non che tu vai a prenderti un figlio al supermercato, lo voglio biondo, nero, beh. Vabbè, adesso, non, no, Mauro, non c'è bisogno del tuo prezioso. Abbiamo già ascoltato su questa cosa qui un sacco di gente. Allora, e voi state girando sempre intorno allo stesso, alla stessa cagata. Scusami, Mauro, ci stai dicendo che non ti piace l'utero in affitto, giusto? No, no, tranne, allora, una coppia. Allora, io la mia ex moglie... mi hanno tolto l'utero alla mia moglie perché aveva delle displasie. L'ex moglie ti hanno tolto, hanno tolto l'utero, vabbè, hanno tolto l'utero. Ma chi se ne frega se hanno tolto l'utero? Poi chissà quanto è contenta l'ex moglie di sentirsi alla radio citata dal coglione, capito? Perché è ex moglie. Cioè chissà, un dato sensibile come questo, la ex moglie ascolta la radio e dice: ma stai zitto coglione, stai zitto coglione. Sai chi è stato? Io non voglio parlare con te. Sai chi è? Non voglio parlare sai con te. Sai chi è stato la mia ex moglie? Vai a fare il culo. Sai la Cirinà? Sai chi è la Cirinà? Sai la Cirinà? Draghi è stato a scrivere la Cirinà con i froci. Draghi! Hai capito? E la mia ex moglie, sai con chi è andata via? Con un rapino! No, non è andata via perché sei un cretino. Sai cos'è? Ok, per piacere, cambia perché se lo metto giù, mamma Giuseppe. Mia, che minaccia, metto giù! No, se no, metto giù, metto giù, fa il cretino col microfono, che vende davanti a me, fa il cretino, e gli do la compilation di schiaffi che se la ricorda nel petto, sono efficiente. È stato l'espresso, è stato! Ma che vuoi dire, Mauro? Kissinger! Come Kissinger? Kissinger! Ma che cosa? È stato lui! Mauro, io non ho capito che cosa hai chiamato a fare, però al di là di questa considerazione, cioè la considerazione... Ma ascolta, ascolta, è due giorni che la menano con sta stronzata! Di cosa? Ma nella legge, e i gay non i gay! Ma io lo so già perché! Perché? Già perché? Perché? Perché? Ma semplicissimo! Semplicissimo! Per nascondere i problemi di questo... di questo governo anticostituzionale, antidemocratico. Ah, tu dici una, tutta una manovra per coprire le magagne del governo. Ma certamente. Ma allora, certamente. Adesso guardiamo sul tablet. Allora, sul tablet. Ma che guardiamo? Parenzo, Parenzo, uno dei quattro che ho. Uno dei quattro che ho. Sì, uno dei quattro tablet. Poi dice che è senza una lira, senza un euro per colpa di Monti. Io quando vado a lavorare, quattro tablet, quando vado a lavorare e faccio la fattura. La fattura, sì. La fattura di che? Dici che non lavori. La frattura ti farai. Lavoro pochissimo. La frattura del cervello. Adesso lavoro 10. Vabbè, ho capito, amico mio, però uno se c'ha quattro tablet. Ma le ho preso quando sono andato a lavorare con i soldi che ho percepito, mi sono preso dei tablet in offerta, semplice. Vabbè, allora dimmi. Allora, Parenzo Vus Mauro da Mantova, siccome che è molto simpatico il tuo amichetto Frocetto col cazzetto. Vabbè, siccome dai, che? Siccome allora, che? Lui, siccome che però in italiano non si dice voti. Siccome me. Allora, dai. E io 1012. Vabbè, che d'accordo, strano. Questa è la grande sfida su internet, su web, di cui Parenzo se ne sbatte. Come mai? Se io ne ho 1012 e sto coglione 723. Sai perché? Perché sai perché? Sai perché? Ecco perché, perché sono coglione. Perché no, però Mauro, Mauro. Mauro, scusami un attimo, io vorrei capire una cosa, ma secondo te questa legge Cirinà è frutto di qualche lobby, ma di qualche perché, magheggio? Ma perché di fai domande come fosse galli della loggia? Perché? Ma dimmi. Chi ha organizzato il colpo di Stato a Berlusconi? Colpo di Stato a Berlusconi? I soliti tre. Sì, cioè? Magistratura democratica, sì? Prodi e Benedetti. Sì. E le Benedetti cos'è? Ma c'entra? È mica una bista? Ma che c'entra? Perché siamo arrivati alla conclusione. Dietro la Cirinà chi c'è? Te l'ho detto. Dove vedi? Scusami bene. Te l'ho detto all'inizio. Ascolta bene. Cruciani, perché ma, così stai zitto, Cruciani, con quel cazzo in testa? Allora, De Benedetti, De Benedetti è il papà della Boschi. Ma come papà della Boschi? Sì! De Benedetti alle banche? La papà della Boschi alle banche? È la stessa persona! Prima o poi ti becco, prima o poi ti becco, Vacca puttana se te ne do. Guarda che il papà che della Boschi è De Benedetti. Coglione De Benedetti. No, ciao, ciao Mauro, ciao. No, fammi finire. Dai, finire che cosa? Che cosa? Giuseppe, povero mentecatto, cosa vuoi finire? Che devi, cosa Giuseppe, vuoi finire? Che devi finire? Allora, il papà della Boschi, quello che è andato a chiedere consiglio. Da chi è andato? Da Carboni, non so da chi. Carboni era quello invischiato con Sindona, Cavi e Gelli. Ma che c'entra? Cosa c'entra? Ma che c'entra? Hai dei bei amici, papà della Boschi. Beh, che hai c'entra? Fatto dei bei amici di merenda. Ma che c'entra? Ma che c'entra adesso? Ma che c'entra? Avete rotto i coglioni con Mangano, con Berlusconi e Mangano. E ciao Mauro, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao Mauro. Tu sei uno strumento nelle mani del demonio. La Zanzara. Vai ragazzi, riprendiamo, 800 24 00 24, WhatsApp 393 71 71 701. Odio dare i numeri di telefono, però ogni tanto bisogna farlo perché così alimentiamo il flusso dello stomaco, come dici tu, il flusso dello stomaco, della pancia. Alberto, provincia di Lecco. Alberto, provincia di Lecco, vai Alberto. Eccomi, buonasera. Dimmi. Crociani, poco fa hai detto che l'omosessualità esiste dalla notte dei tempi. Sì, non mi pare di aver detto una cosa strana, una cosa anche banale. No, chiaro, è vero, cioè sì. È un dato di fatto. Sì. Allarghiamo un po' gli orizzonti, anche la pedofilia esiste dalla notte dei tempi. Sì, certo. Bello che questo paragone intelligente. Che c'entra, scusa, che legame c'è tra l'omosessualità e la pedofilia? Paragone intelligente. Questo lo chiedo a te. Allora, sono due deviazioni? Ma lei è deviato, uno è un reato. Uno è un reato, l'altro è una... Aspetta, tu hai detto che sono tutte e due delle deviazioni, hai detto? Allora, la domanda è, sono due deviazioni? No. Cioè, una è una malattia, una perversione, è anche punita. Un reato. Punita. Un momento, una malattia... Un momento. Una perversione, una malattia quale? La pedofilia? Beh, certo. Direi. Sì. Cioè, avere l'attrazione nei confronti di un bambino... è una malattia. Non so come definire una malattia, una perversione, una patologia che sfocia spesso in un reato. Cioè... Ok, perfetto. Allora, però, lasciando stare. Professor il reato, Alberto, dove vuoi arrivare? Cosa vuole difendere? Cosa vuoi dire? Non girare la in largo. Paura, tu stai paragonando l'omosessualità alla pedofilia. Questa è la realtà. Cioè, questa è la realtà. Sì. Mi sembra chiaro. Sì, sì, ha detto sì. Sì, stai paragonando l'omosessualità alla pedofilia. Dillo chiaramente. Per me, tra omosessualità e pedofilia, insomma, il confine è abbastanza labile. Sono praticamente la stessa cosa. Dillo chiaramente. Il confine è labile perché è determinato soltanto dalla legge. Sì, chi è che lo diceva recentemente? Praticamente, no, che molti. Che molti, quale politico? Molti gay sono anche pedofili, cioè, quale altro personaggio? Che la percentuale di gay, sì, quello dei 5 Stelle, là ci sono degli studi, quello che ha composto l'inno dei 5 Stelle, Tosatto. Ah, Tosatto, quello che sta a Dubai. Sì, quello che sta a Dubai, cioè. Che ha sostenuto che ci sono diversi studi che dimostrano che la percentuale di pedofili all'interno dei gay è fino a non so quante, 10 volte di più rispetto agli eterosessuali. Vabbè Alberto, non ho capito, tu pensi che tra omosessualità e pedofilia ci sia più o meno... Allora, io penso che sono due deviazioni o due perversioni diverse, sì. No? Il fatto di affidare un bambino a una coppia omosessuale per il semplice motivo che laddove c'è l'amore, nella famiglia c'è l'amore, vabbè allora affidiamole anche ai pedofili perché anche loro li amano. Sei veramente un coglione, lo sai? Cioè, sai che sei veramente. Se sei serio? Sei veramente un personaggio. Secondo me stai scherzando perché non si può pensare che affidare un bambino a due uomini possa comportare un rischio di pedofilia, perché è una cosa assurda. No, ma lo so. Ma come lo sai? Lo sai o non lo sai? O ci fai o ci sei? Allora, prendiamo per buono che un omosessuale è un omosessuale e basta, non è anche pedofilo, giusto? Guarda che ci sono un sacco di eterosessuali pedofili che vanno con persone dell'altro sesso. Certo, ci sono certamente pedofili che vanno con persone dello stesso sesso, in particolare, anzi, solamente pedofili maschi che vanno con i bambini. E quelli, come dire, vengono giustamente arrestati e secondo alcuni dovrebbero essere anche ammazzati ma quello è un altro discorso. E io, sì, io ma, posso anche essere, ma non sono gay, sono pedofili, è una cosa diversa. Non sono gay, sono pedofili. Poi vanno con i bambini, ma è diverso. Beh, non c'entra niente l'omosessualità. Nella testa, no? Che ti fa decidere che ti piace una cosa o un'altra. Che cosa c'è? E il reato, cioè, se a me piace andare, sono un uomo, mi piace andare con un uomo, sono un uomo, mi piace andare con un cane, sono un uomo, mi piace andare con chi cazzo non voglio. Non è la stessa cosa andare con un cane e andare con un uomo, non è la stessa cosa. Se io sono uomo e vado con un cane o con un uomo, non è la stessa cosa. Già il fatto che lei abbia pensato una bestialità simile la rappresenta in modo disumano e idiota proprio. Già il fatto che lei faccia un paragone. Vabbè, ma io non voglio capire dove vuole arrivare Alberto. Ma non ho ancora capito. Parte, vuole solo insultare. Dove cioè vuole dice arrivare? Che no, sono. No, attenzione, io non voglio insultare nessuno. Sta dicendo delle cose assurde che pensa e va bene così. Cioè, tu stai paragonando l'omosessualità alla pedofilia. Va bene. Cioè, beh, non va bene. Sono cazzi tuoi. Ma perché? No, sono casi miei, ma fai un cazzo. Io per fortuna non sono né uno né l'altro. Quindi, però. Ma lei è tante altre cose ben peggiori, guardi. Lei a sentirla. Ma che ha detto? Ha detto questa cosa qua. Tante altre cose ben peggiori. Non ho capito, spiegami un po'. Allora, omosessualità uguale pedofilia, giusto? No. Sono entrambe delle deviazioni, però. Sono delle deviazioni. Ma da che cosa? Avviso, gli omosessuali sono deviati avviso, da cosa? Uno può avere delle deviazioni, chiamiamoli dei gusti, delle attrazioni diverse, delle perversioni. Il nome che poi gli si dà non è che ha tanto valore, no? Allora? Però, se nella testa di una persona... Ma mica ho capito dove vuoi arrivare tu, eh? Dove vuoi arrivare? Dove voglio arrivare? Non lo sai nemmeno tu. Sì che lo so, voglio... No, in realtà io non tu lo che so. Tu che sei io sposato, hai figli? Sei sposato, hai figli? Hai una moglie, hai figli? Che fai? Io non... Sì. Hai una moglie, hai figli? No. Sei stato mai baciato? Sono sposato, convivo, ma ho un figlio. Questo figlia. È molto grave, eh? Questo è molto grave. Che non, ma prima è molto grave che non convivi. Sanirò la mia posizione. Cerca di sanare la tua posizione, che è molto irregolare. Ed è anche molto grave, guarda, molto grave. Secondo tutti i canoni della Chiesa Santa Romana. Santa Romana, Apostolica Romana. È molto grave. Convivi e non ti sei sposato. Beh, questo è gravissimo. Fai sesso per piacere o per riprodurti? L'ho fatto per piacere, lo faccio per piacere, l'ho fatto anche per riprodurre. Molto grave questo. Fai sesso per piacere, è gravissimo. Devi chiedere perdono a Gesù Cristo, devi soprattutto fare un sacco di penitenze. Siccome sicuramente scopi per piacere, come lo hai anche confessato qui apertamente nel grande confessionale della Zanzara, hai confessato che praticamente scopi per puro piacere. Vai subito dal tuo prete di riferimento e dici domenica mattina vai dal tuo prete e dici e devi dire, chiaramente dire Padre nostro che sei facciamo un Padre nostro insieme, dai. Lo sai il Padre nostro o no? Me lo ricordo. Aiutami, ma sei il Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Non vorrei prendere un fulmine in testa. Venga però, il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Non so niente. Segnarvelo io. Come fa il Padre nostro? Dillo, perché, fermo, traffico. Traffico. Tu che fai quando vai a dormire? Ti sogni traffico. La Zanzara. Mi piacete perché se cerchi il peggio che c'è in Italia oggi, basta sintonizzarsi su Radio 24. Date veramente spazio a tutti. L'ottimismo dei napoletani mi ha rotto i coglioni. Giudicare un dipendente pubblico da come timbra i cartellini è come giudicare un calciatore da come tira i rigori. È vero che è un fattore culturale. Il genio, la creatività di un fuoriclasse napoletano in 10 minuti di lavoro non la battono neanche 10 ore di un gregario milanese. E comunque fanno bene. Se io fossi un dipendente pubblico non farei un cazzo di niente tutto il giorno e poi mi sparerei lo stipendio a troie. Capito, Parenzo? attesa per il collegamento, attenzione. Pronto? Dottor Fasciana? Sì? Sì, buonasera. Buonasera, con chi parlo? Sono Cruciani, salve, buonasera. Pronto? La disturbo? Sì, ma sono Cruciani, ma non conosco nessun Cruciani. Lo so, Cruciani... Radio 24. Salve, buonasera. Radio? Radio 24, buonasera, sono Confindustria, Cruciani. Confindustria, Radio 24. Il buonasera. Sono buonasera. 24 ore, dottor direttore Fasciana. Roberto Napoletano. Dottor Fasciana, io la voglio appoggiare per questa cosa qui, per cui lei viene addirittura, mi dicono, stalkerizzato, è vero? No, guardi, io non lascio più, non rilascio più dichiarazioni. Sì. Perché quello che devo dire l'ho detto. No, lo so, però ho letto alcune cose. Però... soprattutto in difesa della mia collega, che è stata oggetto di offesa. Sua collega chi? Scusi, sì. Che, ah, quella che ha scritto... Il giudice estensore. Ah, il giudice estensore. Ho rilasciato interviste solo esclusivamente per questo motivo. No, no, ma lo so, ma infatti io voglio... Ma io io voglio chiedere questo, perché che cosa è successo? Cioè, siete minacciati? Che cosa è successo? Siete passati come quelli che avete sdoganato il palpeggiamento, questo è il punto, no? No, non siamo affatto minacciati. Ma le ripeto, non ho nulla da dichiarare. No, ma lo so, ma ho capito, ma io, siccome siete passati come quelli che hanno sdoganato il palpeggiamento, questo è il punto, vede? Allora quello è il punto, siccome io questa cosa qua invece secondo me è una follia, però cioè... è interessante quello che avete argomentato, scritto, no, per avvalorare allora, noi, la sentenza. Allora, noi in udienza pubblica abbiamo emesso una sentenza, le motivazioni sono depositate nella cancelleria. Qual è la motivazione? Se interesse particolare qualcuno può chiedere. No, ma glielo chiediamo un attimo a lei, la motivazione se la ricorderà. Qual è la motivazione fondamentale? Allora, la motivazione, la ripeto, allora io sono abituato a parlare con le sentenze. Sì, no, ma appunto, e noi quello le chiediamo, la sentenza appunto. La sentenza la può chiedere copia per essere... No, ma in una parola, ma se lo ricorderà quel che ha scritto, no? Ma lei è Radio 24, io già l'ho... Sì, lo so, ma questa è La Zanzara, è un'altra trasmissione. Questa è La Zanzara. Però scusi un attimo. La Zanzara. Sì, però scusi un attimo, Fasciana, allora... Ma perché c'è questo ritorno di voce? No, non c'è nessun ritorno, che ritorno? Quale ritorno? No, io sento la voce che ritorna. Che ne so? No, è la mia. È la sua, è quella di Parenzo. La mia, sì. No, quella è la sua, poi Cruciani, quella è quella. Io le sto chiedendo una cosa, dottor Fasciana. Io spero che lei non mi stia mandando in diretta. No, noi siamo in diretta qui alla Zanzara. Qual è il problema? Tanto non sta dicendo niente. No, il problema è che. No, mi scusi, il problema è che lei mi deve avvisare. No, l'abbiamo detto. Io l'abbiamo detto. Radio 24, l'abbiamo detto. Radio 24, la Zanzara. Non mi ha detto che eravamo in diretta. No, ma che abbiamo detto? Abbiamo detto che la sua sentenza non è. Non voglio fare nessuna polemica. E io le sto dicendo che. Dottor Fasciana, mi scusi, no, mi scusi, no, d'accordo, io però una sola cosa le voglio dire, una cosa, dottore, veramente, no, perché io voglio capire, quelle due signore non hanno denunciato, questo non ho capito bene il procedimento, capito, solo dal punto di vista, le due ragazze, le due dipendenti. Ma l'ho spiegato al suo collega. Lo so, ma lo voglio sentire. Ma ci siamo anche noi, dottore, scusi se glielo chiediamo, con rispetto, veramente. Massimo rispetto, assolutamente, non è che stiamo chiedendo chissà che cosa, è una cosa che... Figurati. Lei dice che ha già detto. Io lo sto dicendo, dal fatto che state mancando il rispetto. E allora, con rispetto, le chiediamo se ci può dire. Non avrebbe senso dire una cosa del genere. Le sto dicendo soltanto che tutto quello che ho dichiarato l'ho dichiarato e non ho null'altro da aggiungere. No, d'accordo. Io voglio capire una cosa: perché siete passati come quelli che hanno sdoganato il palpeggiamento nei confronti delle perché? Perché ovviamente chi. Sono state scritte cose che non corrispondono all'effettiva motivazione della sentenza e che, quindi vi ripeto, basta leggere la sentenza che si chiarisce tutto. Vabbè, la ringrazio, buona serata, arrivederci, grazie. Prego, arrivederci, niente, buona serata, grazie. Allora ragazzi, dove andiamo? Andiamo che c'è una notizia molto importante, perché Obama oggi è stato in moschea, è andato in una moschea Obama negli Stati ragazzi, Uniti. Però posso andare con gli ascoltatori, che me ne frega di Obama che è andato negli Obama Stati Uniti. Obama va in una moschea oggi e ha detto: da certi politici c'è una retorica inaccettabile contro l'Islam. e poi ha chiesto grazie ai musulmani. Ai musulmani voglio dire grazie. È la prima volta che un presidente in carica fa questo gesto straordinario di entrare in una moschea. Ha detto no, la tua cazzata, non va bene. Gemma da Roma, dai. È una notizia fondamentale che disinnesca quello che qualcuno vorrebbe, cioè lo scontro tra civiltà. Gemma da Roma, dai. Ha letto la prima notizia sopra e ha detto la sua minchiata. Gemma da Roma, dai. Gemma. Editoriale ha fatto. Dai, su. Pronto, buonasera. Dimmi. Ecco Gemma. Allora, io ho chiamato perché, sentendo quello, perché non l'avevo sentito, che ha detto padre Livio, si capisce perfettamente che lui semplicemente ha dato una lunghissima vita alla Cirinna. Ha solo detto che quando ci sarà il funerale. Ma è un prete. Il solo fatto che abbia parlato del funerale in modo anche ridendo, che inutile che brinda, poi arriveranno anche i funerali. Già questo dice a tutti: inutile, non c'è niente da commentare. Gemma, Mauro da Ferrara, dai, non c'è niente da commentare. Mauro da Ferrara, Mauro non c'è. Francesco da Prato, vai. Francesco, dimmi. Dimmi, Francesco, dimmi. Sì, senti, no. Dire sempre quello di cui stava parlando la ragazza che hai, a cui hai attaccato la cornetta ora. No, volevo dire una cosa semplice, cioè, da te non mi sarei aspettato una mancanza di logica del genere, da quel coglione di Forenzo sì, ma da te no. Buonasera, lei si chiama? Coglione? Francesco da Prato. Vabbè, allora piacere Parenzo, l'ha detto coglione, Parenzo sì, no, io sono. Esatto. Lei è Parenzo, coglione, il signor coglione? No, il signor coglione Parenzo. Come sta, senta, signor coglione? Buonasera, benvenuto. Volevo chiedere una cosa, Parenzo, ma lei la pagano per dire tutte queste cazzate oppure le credi veramente? Beh, vabbè. Eh? Ma qual è il punto? Spiegami qual è il punto, Francesco, spiegami. Francesco Coglione, qual è il nome? E si stava dicendo, il fatto è uno, è un prete, no? Il prete che cosa dice? Il prete crede nella vita eterna, ragion per cui ha detto che la signora Cirinna si ritroverà davanti, dovrà fare i conti con Dio, questa è la sua logica, ma le ha anche detto la vita. Ragazzi, ha parlato di funerali, poi ha capito di aver detto una minchiata, ha detto beh certo, le auguro la vita più lunga possibile, come si dice sempre quando uno in realtà ironicamente non ha augurato la morte. Allora ragazzi, io ho capito male io. Ciao Francesco, ciao. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. La Zanzara. Allora ragazzi, alle 20 e 33 minuti esatti di mercoledì, che cazzo di giorno è oggi? 4 o 3? Mercoledì 3 febbraio, ecco qui il G. Il sondazzo, le celebri provocazioni telefoniche del G, vietato ai minori di spirito. Sì, pronto signora, il signor Gerardo in casa? Sì, che c'è? Chi è? Devo parlare urgentemente col signor Gerardo. E chi è? Lei è la moglie? Sì. Ecco, appunto, lei mi dovrebbe passare il signor Gerardo. Me lo passo, se si parla. No. Brava, me lo passo. È uno che si vuole, non lo so. Ma come parla questa qua? Sembra sempre, sempre incazzata. Signor Gerardo? Sì. Sì, buongiorno. Io volevo parlare con lei perché lei tiene una moglie che sembra sempre incazzata, no? Allora, noi abbiamo, come si può dire, una società, diciamo, anonima per ammazzare le mogli, specialmente quelle che rompono i coglioni. Vorrebbe servirsi dei nostri servigi, senti il discorso che ho fatto? Le servirebbe la nostra opera? Ma chi è da me? Noi le ammazziamo la moglie in modo pulito, lei paga poi insomma la facciamo sparire come se non fosse mai esistita. Le va bene? Dopo rimango senza. Sì. Dopo dopo no, noi abbiamo anche il servizio di sostituzione, signor Gerardo. Cioè gliela sostituiamo con una moglie a sua scelta, giovane, carina, eccezionale, che insomma le fa tutte le cose. È d'accordo lei, signor Gerardo? No. Guardi, le leviamo di mezzo una moglie che sempre abbaia continuamente, lo sente come abbaia? E le mandiamo una ragazza dolcissima, bella, carina, al suo posto, che le fa tutte le coccoline. È contento, signor Gerardo? Ma ci sentiamo, via. Va bene? Allora, possiamo procedere? Ci sentiamo. Ci sentiamo? No, no, sì, noi procediamo direttamente, eh? Vabbè. Entro lunedì lei sarà a posto. Signora? Che c'è? Nulla, nulla, signora, stia tranquilla. Lei non si curi di nulla, vedrà che tra poco starà meglio. Ha capito? Che vuole dal mio marito? Voglio sapere io. Senta, volevo dire, guardi che suo marito è già d'accordo con me, ha già mandato l'ordinazione, eh? Che ordinazione? Allora, signora, se ne accorgerà, vedrà, vedrà. Ma io non posso io! Signora, guardi che lei è veramente incredibile. Ma qua, come parla, signora? Ha capito? Sì, ho capito! Li mando anche indietro io, faccio prima! Ma cosa urla, signora? No, io non urlo, io c'è anche il cane. Sì, noi procediamo direttamente, eh? Vabbè. E le mandiamo una ragazza dolcissima, bella, carina, al suo posto, che le fa tutte le coccoline. Ragazzi, che genio. Andiamo a Piacenza da Catalin. Catalin, Piacenza, vai. Sì, buonasera. Sì, Parenzo è già in fibrillazione, sì, che deve andare alla gabbia, già sta qui che frigge. Se però abbiamo un grande personaggio, caro Parenzo. Gabbia, nella gabbia, il signor Paragone. Vai, gabbia, vai. La gabbia. Ma volevo chiedere, Cruciani, come fa a sapere che l'omosessualità esiste dal più del mondo? È scritto, è scritto, la storia, sì, è la storia, è scritto, studi, capra, nella, capra, vai, Catalin. È scritto nella Bibbia, no? No, non lo so, anche nella Bibbia probabilmente, sì, non lo so, Catalin, cosa vuoi dire? Per lo stesso motivo Dio ha bruciato due città come Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, siamo arrivati a Sodoma e Gomorra. Certo. Cioè, tu stai dicendo che a causa dell'omosessualità Sodoma e Gomorra sono state distrutte. Certo, dunque, lei è musulmano? Le unioni gay distruggeranno il mondo, questo vuoi dire? Questo è certo. Questo è sicuro. Scusa, da dove vieni, Catalin? Catalin, ti ricordi? Catalin Cammello. Dalla Romania. Un rumeno omofobo, stupendo. Un rumeno normale, penso. Un rumeno normale, diciamo, che pensa che l'omosessualità distruggerà il mondo, amico. Sì, perché è contro natura, l'omosessualità è contro natura. Vabbè, adesso non so, mettiamo anche che sia contro natura. Qual è il problema? Non è che si propaga, non è un virus distrugge l'umanità. Cioè, se uno nasce omosessuale, non è che se esistono i matrimoni gay o l'adozione nasceranno più omosessuali. C'è una percentuale normale di omosessuali, ma che non si cambi proprio la natura dell'uomo, non lo so cosa dovrebbe cambiare. Io non ho niente contro i gay. Si dice basta sempre così. Dici semplicemente che distruggerebbero il pianeta se ci fosse. Sì. Non portarsi dietro altre persone con loro, cioè, adottando i figli. Cioè, si portano dietro altre persone con loro. Cioè, se vogliono andare verso la distruzione, possono andare tranquillamente da soli. E allora? Allora, cioè, basta che non chiedono di affidamento. Cioè, restino nel tu dici restino lì per i fatti loro dentro casa. Non rompano i coglioni con i figli, con queste cose qua. È quello. Vabbè, amico mio, che ti devo dire? Ciao, ciao. Ragazzi, abbiamo una persona che si chiama Vittoria Schisano, già Giuseppe Schisano e soprattutto già ospite della Zanzara, attrice. Volevo presentarla. Che ha cambiato sesso anche lei. Ha cambiato sesso, okay. Una donna molto bella, oggi donna diciamo in tutto e per tutto dopo l'operazione che ha fatto, ma questo era già noto. Ma la cosa nuova è che è sulla copertina di Playboy. Ah, hai capito. La copertina. Io volevo introdurre Vittoria. Beh, diciamo, non è sulla copertina di Famiglia Cristiana. No, però sarebbe bello, lo sai? Cioè, no, ho capito, però lo dici con un'enfasi, cioè non è una notizia che è sulla copertina di Playboy. Beh sì, io, sarebbe stato una notizia, sai prima... che, è, no. Che so, l'apertura di Avvenire. Beh, uno dice, oi boh, Avvenire. No, è la prima, ti ricordi, venivano chiamate le Playmate, no? Come no, come no, come è la prima di aver effettuato un cambio di genere, così sembra, così, così raccontano le cronache, così racconta... Non dico la propaganda, insomma la pubblicità di Playboy. Però io vorrei introdurre la signora Vittoria Schisano che ci sta ascoltando. Ciao Vittoria. Buonasera a tutti, buonasera a tutte le zanzare in ascolto. Ciao Vittoria. Allora, buonasera signora. Operazione fatta a Barcellona tempo fa. Allora, allora Vittoria, io ti vorrei far ascoltare un deputato della Repubblica, un senatore della Repubblica che si chiama Mimmo Scilipoti, l'amico Mimmo, soprattutto amico mio di parenzo da tanto tempo, ormai non più amico direi. Eravamo amici, amici, ma adesso, no, amici mai stati. Il quale in Parlamento oggi ha parlato di alcune cose curiose, di alcune cose curiose, sentiamo. La donna non si vestirà da uomo e l'uomo non si vestirà da donna, poiché il Signore tuo Dio detesta chiunque fa tale cose. E ancora, non ti coricherai con un uomo come si fa con una donna. È cosa abominevole. Non rendetevi impuri con nessuna di tale pratiche, poiché con tutte queste cose si sono rese impure le nazioni, che io sto per scacciare davanti a voi. Chiunque praticherà qualunque di questa abominazione, ogni persona che la commetterà sarà eliminata dal suo popolo. Cioè sta leggendo dei passi del Levitico e delle sacre scritture per provare l'incompatibilità dei gay con, non so, con l'umanità, per con, il con, parlamento di con la natura. Per il Parlamento di Teheran è perfetto. No, ma aspetta, c'è un altro, c'è un altro passaggio meraviglioso. A Teheran. Aspetta, Vittoria, aspetta, aspetta. Maschio e femmina li creò. Li creò per essere una sola carne, per procreare. Così si estende la creazione divina che ha nell'uomo la sua corona. Cioè, a confronto Livio Fanzaga, come si dice in gergo romanesco, gli fa una pippa. Signor Livio Fanzaga, magari tra i due c'è qualche... È un moderato. Beh, bellissimo, l'unione tra Livio Fanzaga e Scilipoti. Pensate, un'unione di fatto, Livio Fanzaga... Come ce li vedi tu? Insieme, Livio, sì, Fanzaga e Scilipoti. È l'associazione a delinquere. Senti, senti che non riesci a pronunciare Stepchild Adoption. Associazione teologica a delinquere. Senti. Correlato al tema naturale dei figli naturali nati dal concepimento è il tema dei figli adottivi, cioè dire quello che in inglese si chiama stepchild adoption, cioè dire questa lingua che noi utilizziamo ricorrentemente in inglese. No, io taglierei il pezzo però perché uno io che vuole... non direi ricorrentemente. Ecco, diciamo l'avverbio ricorrentemente. Ma è tutto meraviglioso. Vittoria, hai sentito, cara? Lo smettere, mi si sta smontando la piega a sentire queste cretinate. Non se ne può più. Lo so che ti ho fatto un torto, Ma non l'hai fatto solo a me, l'hai fatto a tutte le persone che ci ascoltano. Io voglio semplicemente dire a questa persona, a questo signore, che Dio non ha mai punito l'amore. Dio accoglie, sì. non respinge il proprio popolo, non si sceglie di essere omosessuali, non si sceglie di nascere nel corpo sbagliato. Questo si chiama Mimmo Scilipoti, questo signore. Mimmo, ma io, senatore, ma è un nome che non ricorderò mai, spero di non incontrarlo mai, anche perché che si potrebbe innamorare di me. Poi voglio spiegare che prima ero un uomo, almeno per la legge. Questo è interessante, comunque... vedendo le tue foto che già conoscevo, sicuramente potrebbe innamorarsi di te, perché tra l'altro il signor Mimmo Scilipoti è conosciuto anche per essere... Non è questa, che sta vedendo un'altra foto, sta vedendo delle, ha visto delle tette pazzesche su una foto, sì, qui su Dagospia, sì, e pensava che fossi tu. No, ti faccio vedere, è no, un hamburger mi hai fatto, ma ti faccio vedere delle foto pazzesche. Guarda, dimmi se sembra un uomo. Ah, questa signora qua, certo. Ma infatti non lo sono mai stata. Beh, no, sei stata un uomo, adesso non esageriamo. Sei stata un uomo. Nel senso che io credo che si nasca donne. Tu sei nata donna in un corpo di uomo, dici. Esattamente, esatto, nel senso che un vizio li può mettere solo equilibrio lì dove equilibrio non c'è, però poi la femminilità è un qualcosa di innato che nessuno ti insegna e che nessun bisturi ti regala. Senti, ne abbiamo già parlato della tua operazione. Capito, è inutile parlare dell'operazione. E la novità è questa copertina di Playboy. Sì. Questa copertina di Playboy molto bella. Vabbè, insomma, le foto sono sempre belle, non è che mettono le persone brutte su Playboy. Poi dal vivo è stato un grande onore per me, essere messa, voglio dire, tra le donne più belle del pianeta, e essere incoronata come icona femminile da un giornale che ha dato un messaggio ben specifico. Senti, ma quanto porti di seno adesso? una quinta. Una quinta, ti sei fatta fare una quinta, hai scelto una quinta, hai scelto una quinta. Ma il taglio del pisello, chiamiamolo così in maniera piuttosto chiara e cruda, è una cosa che ti ha danneggiato? Perché molti dicono, beh, quella è una cosa che mi può caratterizzare, invece tu proprio lo volevi perché non vuoi essere trans, volevi essere donna. Ma donna. Io non ho mai negato il mio percorso di transizione, però ho sempre detto di sentirmi una femmina. Oggi non mi sento più femmina della femmina che ero prima dell'operazione, perché ripeto, non è un visto che ti rende tale, però ho sentito la necessità di completare il mio percorso semplicemente per quella che era la mia idea di armonia. Ma quanti anni hai? Quanti anni? Io ne ho 32. 32 anni, 32 anni. E mi dicono che ti sei fidanzata con un signore che si chiama Fabrizio Vannucci, avete fatto anche qualche intervista. La cosa curiosa che voglio chiederti, scusami se sono così chiaro, ma una donna che ha fatto un'operazione riesce ad avere degli orgasmi? Scusami se te lo chiedo, una domanda molto intima, capisco. Parenzo sta già con degli sorrizzati capelli. Ah, tu riesci ad avere gli orgasmi come una donna? Come tutte le donne, ovviamente, se mi vuoi scoprire il mio corpo, scoprire il mio cervello, perché le donne lo fanno con il cervello. Come dice, signora, ma anche gli uomini lo fanno con il cervello, scusami, Vittorio. Oddio, io conosco qualcuno che lo fa con il pisello. No, è vero, molti uomini lo fanno, molti uomini. Diciamo, tra gli uomini ce signora, ne sono... Signora, scusi, questa è pur sempre la radio della cosiddetta, come direbbe Capanna, Confindustria. Quindi. No, ma lei, tu hai il diritto di parlare come ti pare, perché sei meravigliosa. Allora, tu riesci ad avere degli orgasmi, diciamo, normali, come quelli di una donna, diciamo, no? Certo che sì. Ma tu quando ti sei fatta, come dire, costruire la vagina, l'hai fatta, come dire, vergine? Te l'hanno costruita vergine, cioè con tutte le crismi della verginità? Che nel momento in cui tu ti operi e quindi hai una nuova sessualità, un nuovo orgasmo, è ovvio che ti ritrovi vergine poi a 31 anni. Cioè tu a 31 anni sei diventata vergine? Vergine, esatto. Cioè un anno fa. Un anno ovviamente vivi quell'atto di donare la tua verginità all'uomo che ami sicuramente con l'entusiasmo. Oh, per cui tu hai fatto l'amore per la prima volta? Diversa. Cioè hai fatto l'amore per la prima volta l'anno scorso. Hai perso la verginità a 31 anni. Mi sono ritrovata vergine, vuoi mettere. Ma tu prima hai fatto sesso? Sì, anche prima facevi sesso. Certo che sì. Ma anche col tuo fidanzato attuale hai fatto sesso sia con... No, il mio fidanzato attuale ha conosciuto Vittoria, quindi... Non cioè ti ha conosciuto solo con la vagina? Esatto. Ragazzi, siamo... però secondo me qualche curiosità gli è rimasta. Ogni tanto non ti dice, no, mi sarebbe piaciuto provare anche Giuseppe. No, è un uomo molto intelligente che ama Vittoria, che Giuseppe non lo prende neanche in considerazione, perché se avesse voluto incontrare Giuseppe probabilmente avrebbe cercato Giuseppe prima, se ha cercato Vittoria perché cercava una donna. Comunque guarda che le foto sono molto belle, ragazzi, andate a vedere tutte, se volete comprate anche Playboy, ma non è che qui dobbiamo fare pubblicità a Playboy, perché sembri veramente, come si dice in gergo, Parenzo, com'è che si dice? Perché non inviti qualche volta in televisione a Schisano? È una, si può fare, certamente, no, è una signora a discutere dei grandi temi. È una temi signora che ha grandi argomenti. Senti Vittoria, ma tu sei a favore, cioè, adotteresti un bambino? Adesso non so, non credo che tu possa fare un bambino, no, naturalmente, no? No, io non posso fare un bambino, ovviamente posso adottare un bambino, questa è la grande incongruenza del nostro sistema politico. Lo farei nel momento in cui, io credo che per adottare un bambino, nel mio caso, devo prima sposarmi, prima raggiungere un equilibrio con il mio compagno, poi diventare madre. C'è un per sacco, il di, gente, c'è un sacco di gente che adotta bambini. Io infatti ti sto parlando di me. Io oggi mi sento una giovane donna che è innamorata, mi sto vivendo questa parte della non mia vita. Non vuoi bambini tre e mezzo alle scatole, come dice... Ma perché non sono matura per essere una madre? Quando sarò abbastanza matura per dare amore a un bambino, sarò anche una mamma. Ma dopo l'operazione, dopo quanti settimane, giorni, mesi, non lo so, sei stata, come dire, hai perso la verginità, ecco. Calcola che mi sono operata a marzo e ho regalato questa... Ho regalato, è un dono che comunque sei a te stessa, all'uomo hai che dato, ami. Hai dato la tua verginità all'uomo che ho ami. Ho dato la mia verginità all'uomo che amo a dicembre, quindi da marzo a dicembre fai il conto che non sono brava in matematica, scusa. Da ma marzo a bionda, dicembre sono più ferrata nel sei mesi, sei mesi dopo. Esatto. Cioè, all'età di, prima, scusi, ce lo ricordi, quando ti sei fidanzata con questo signore? A dicembre. Ah, subito allora? Quando... No, ci siamo fidanzati, ecco, ci siamo conosciuti i primi di dicembre, fidanzati l'11, sì. Abbiamo avuto il primo rapporto dopo due a Natale. A Natale, avete fatto passare 15 giorni, che sei? Nell'Ottocento siamo nell'Ottocento, siamo tornati nell'Ottocento, due settimane. Sono una ragazza di famiglia, sono una ragazza di paese, nonostante sia una playmate. ho fatto ragazzi, aspettare almeno 2 settimane. Che vogliamo dire al signore, ai signori che hanno organizzato il Family Day, che dicono che si tromba solamente per, io ho detto tromba, insomma, si fa l'amore solamente per procreare, non per piacere, diciamo. Ma una sola parola. Credo che sia un grande bigottismo. L'amore si fa per il piacere di amare e di unirsi con la persona che amiamo. Ma anche solo per piacere. Anche per un piacere sessuale. Sì, ma anche solo per piacere si fa. Assolutamente anche solo sì, per ma sono, piacere. Ma sono le stesse persone che la domenica vanno in chiesa e che poi la sera ovviamente si uniscono alle proprie compagne. Ma quando mai si è fatto sesso soltanto per l'appropriazione? Ma nemmeno nel 500, credo. Dovrei ricordare a queste persone. Amate, ciao Vittoria. Anche Dio dice. Ciao, amatevi tutti. Saluti. Trombate tutti anche volendo, no? O no? Che dici? Andate a quel paese, me ne vado. Dove vai? La gabbia? Dove vai? Ragazzi, ci sentiamo domani 18:30 la Zanzara. Ciao. Cruciani Akbar! Cruciani Akbar! Parenzo Akbar! Parenzo Akbar! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Zanzare Akbar, a Zanzare Akbar. Radio 24. La passione si sente.